L'ascoltatore medio rimane sul programma per 18 minuti. Il fan medio di Howard Stern lo ascolta per 1 ora e 20 minuti. Ma com'è possibile? La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa dirà dopo. Va bene, d'accordo, perfetto. Ma dimmi un po', le persone che odiano Stern... Buona domanda. L'ascoltatore che odia Stern lo ascolta per 2 ore e mezza al giorno. Scusa, ma se lo odiano, allora perché lo ascoltano? La risposta più comune? Voglio vedere cosa dirà dopo. La zanzara. Tutto il resto è troia. No, non ho detto gioia. Giuseppe, ti voglio dire soltanto, ma come fai a convivere con questo comunista di merda lì? Poi secondo luogo, l'Italia sta diventando il Nord Africa per colpa di questi comunisti, di quel cazzo del Papa, sta rompendo i coglioni pure il Papa. Ciao, grazie. Non se ne può più. Poi uno dice che si incazza. Va bene, Crocetta, le intercettazioni, lo abbiamo difeso, le intercettazioni, quella roba finta, eccetera, eccetera. Ma poi si viene a scoprire che il problema non è la permanenza di Crocetta o meno. Le elezioni in Sicilia andrebbero abolite. Cioè non servono a nulla. Perché non servono a niente le elezioni in Sicilia, amici miei, popolo della radio? Per quale motivo? Ma voi lo sapete, lo sai tu, Parenzo, sicuramente tu non lo sai, stai a Ponza, che cazzo te ne frega. Lo sai, Parenzo, che in Sicilia ci sono il 23% di tutti i dipendenti pubblici di tutte le regioni italiane? Beh, sì, questo cioè, in certo. Sicilia questo... c'è il 23% di tutti i dirigenti, di tutti i dipendenti pubblici. Tutti! Certo! Questo non credo. No, questo credo! Questo credo! Basta! Basta! Basta! No, ma c'è ancora dell'altro. I dirigenti sono 1 ogni 8 dipendenti. Per questo le elezioni vanno abolite. Cioè ci vuole uno che ponga fine a tutto ciò, anche eliminando i diritti fondamentali. Tu sei dirigente, via! A calci in culo, via! Ridotto lo stipendio di 100.000 euro. I dirigenti sono 1 ogni 8 dipendenti, il doppio della media delle regioni italiane. Basta! Ma soprattutto poi non funziona un cavolo, questo è il punto. Oggi si è venuto a scoprire, grazie a un articolo del Corriere della Sera, che hanno premiato a Palazzo Chigi tutti i dipendenti, praticamente, per il merito, il 97%, 93, 94... Che merito hanno, scusa? Ma non lo so, il 97%, oltre il 90%, diciamo così, dei dipendenti, adesso non mi ricordo il dato, è stato premiato, e sono i dirigenti più pagati del mondo, cioè ognuno di questi dirigenti guadagna forse di più del presidente degli Stati Uniti. E il loro merito è quello di essere ben pagati. Basta! Basta! Basta! Marino si accorge che i trasporti pubblici romani non funzionano. Fa fuori quelli dell'ATAC, che è la vergogna, diciamo, mondiale italiana. Cioè l'esistenza di un'azienda come l'ATAC, di un carrozzone come l'ATAC, è una delle più grandi vergogne che esistono in Italia. Nessuno l'ha mai riformato, un posto clientelare, distrutto dalla politica. Basta! Basta! Basta! Marino, chiedo scusa per il disagio del trasporto locale, ma scusa, ma adesso te ne rendi conto? Sono passati 2 anni. Beh, da quando... Infatti però ha zerato tutti i letti. Ah sì, vabbè, ho capito, amico mio, ma 2 anni! A me due... ultimamente, dove accorgi, ma ultimamente a me sto Marino mi piace, guarda. Ah, ti piace Marino? Ultimamente cioè, sì. Ci ha messo 2 anni per capire ci che l'ATAC non funziona. Ha messo 2 anni, però ultimamente ha messo gli attributi sul tavolo della, del comune. Ah, beh. Ha mandato via tutti i dirigenti, cioè il consiglio d'amministrazione dell'ATAC. Tutti i vertici azzerati, molto benissimo. Bene. A parte che ce ne saranno degli altri adesso. Però non è che... andava fatto prima, eh. Ma la storia non cambia, amico mio. Però la storia fatto non cambia. Molto bene, mi piace molto ultimamente. Ti piace Marino? Marino. Secondo me sei l'unico in Italia, secondo me. L'unico in Italia. L'unico in Italia. Però, va bene, ma per carità, uno può fare anche il bastian contrario nella vita, però, va anche bene. Non ho detto che mi piace Bernardo. No, stai dicendo ultimo. No! Perché anche il New York Times scrive che Roma fa schifo per la monnezza, per altre cose, ma però il sindaco è onesto, dice è onesto, no, ma non ce la fa. Il giornali, cosa dicono i giornali stranieri, che va benissimo perché è un problema che così i turisti non vengano più, questo è un problema enorme. Allora? Ma negli ultime settimane proprio questo Marino che prima sembrava come una bandierina che lo soffiavi e cadevo già da, ora potente, via insulti ai cittadini che gli rompono i coglioni, via i vertici delle Dio, degli sei impazzito autobus. Sei completamente pazzo. Bellissimo Marino. Bellissimo Marino. Bellissimo. Intendo scusarmi con i cittadini, anche con le persone che sono in questi giorni a Roma, venendo da altre parti d'Italia e del mondo, per i disagi inaccettabili nel nostro trasporto locale. Chiede scusa, sono passati 2 anni. 2 anni. Merita una riflessione questo. Un'altra roba incredibile per cui veramente non incazzarsi ma rassegnarsi al fatto che ci sono alcune zone di tale, alcune situazioni che sono ingovernabili a meno che non ci sia, non so, un cataclisma, a meno che non ci sia, non lo so, non si esca dall'euro, non lo so, cose pazzesche, deve succedere una cosa traumatica e allora forse si risolve qualcosa. Pompei, i signori di Pompei. Mamma mia, amico mio, Pompei. Allora, il sito di Pompei, è inutile che vi ricapitolo tutti i problemi che ci sono sul sito di Pompei, i soldi che si potrebbero fare non si fanno, certo c'è stato qualche cambiamento, loro dicono che adesso lavorano troppo, quelli che lavorano lì sul sito di Pompei. Oggi i sindacalisti hanno fatto una riunione. Siamo alla fine di luglio, Cioè, frotte di turisti che vanno e che continuano miracolosamente ad andare a Pompei. Beh, perché è meraviglioso, scusa. Sì, però miracolosamente, diciamo la verità, perché se uno dovesse leggere qualcosa su Pompei dice vabbè, non ci vado. Invece miracolosamente, siccome Pompei è l'Italia, eccetera, la gente ancora ci va. I signori sindacalisti, invece di ringraziare che esiste ancora un sito che io farei governare dall'ONU cacciando tutti quelli che ci sono, invece di ringraziare eccetera, no, fanno una riunione sindacale. A causa di questa riunione sindacale non si aprono i cancelli per circa 1 ora e mezza, per 2 ore. Disagi, code, caldo. Uno dei capi di questa rivolta si chiama Pepe, signor Pepe. Ecco appunto. Pochi minuti fa è stato interpellato dal sottoscritto e da Parenzo. Sentite alcune risposte, così l'abbiamo chiamato pochi minuti fa. A lei pare normale che uno rimane fuori per 1 ora e mezza con le file, le code, i turisti alla fine di luglio? Le pare normale a lei? Ritardare l'ingresso non è proibirlo, è diverso. Una coda. Ma chi l'ha visto questa coda? Ah, non c'era. Una coda di turisti sotto il sole che stavano lì. Invece quando sono entrati con l'aria climatizzata, guardi che dentro fa più caldo che fuori. Beh, amico mio, ma come? Come detto, lotta questo Pepe, questo sindacalista? Allora, che cosa che ha detto? Che ritardare l'ingresso non è come impedirlo. Beh, no, cioè, ma soprattutto questo, che fuori ha detto che sta più freschi che dentro. Fuori è meglio che dentro, cioè, si sta. Beh, stupendo. E poi che vuoi che sia, ritardare l'ingresso, che ce frega, è uguale. Soprattutto al Guggenheim, uno va davanti al museo, no? Un museo, e ti dico ritardato per assemblea sindacale. Ma tu l'hai mai vista una cosa del genere? Cioè, hai mai visto il British Museum? Che ne so, Parenzo? Hai mai visto una cosa del genere che a un certo punto arriva un mai. Signore? un signore che dice: scusa, c'è un'assemblea sindacale, per due ore non si può entrare. No, se voi l'avete visto, magari mi sbaglio. Dirti, ma capita anche di andare, che so, a Londra, a Louvre. Hai mai visto tu a Louvre una cosa? Parliamo del Louvre, magari, non Inghilterra, no? I sindacati. Louvre. No, mai visto io una roba simile al Louvre. Basta! Basta! Basta! Allora, un'ultima cosa, poi lascio la parola a voi, è questa. Allora, ha parlato oggi su due giornali la signora Ambra. La signora Ambra è una ragazza macedone, che è la ragazza del killer di Ismaele, di cui abbiamo parlato anche ieri con l'avvocato. Allora, questa signorina, ora, per carità, adesso uno non la può mandare a fare in culo, perché sembra anche brutto, no? Pare un po' brutto. Però hanno ammazzato uno sgozzato, che lei conosceva. È vero, l'ho ammazzato il tuo fidanzato. Una persona, diciamo, normale dice: ma forse è il caso che prendo le distanze da questo fidanzato, no? Direi. Cioè, oppure sto zitta, oppure dice: no. Senti, invece, mi ha telefonato dopo l'omicidio. Lo so. Mi ha telefonato dopo l'omicidio. Lo aspetterò per tutta la vita e lo amerò sempre. Poi a un certo punto gli chiedono: beh, insomma, ma bisognerebbe dire qualche parola alla famiglia di quel ragazzo morto, sgozzato. Beh, cosa vuole che dica? Condoglianze. Basta! Basta! Basta! Buonasera e buona coda a chi è in macchina come me. La Zanzara. Voi siete una valvola di sfogo fenomenale, minchia, non abbandonate, continuate a picchiare duro e razzi e sgarbi cazzo tutta la vita, ti prego. Allora ragazzi, questa potrebbe essere anche l'ultima puntata della Zanzara, chissà, magari l'ultima puntata su questa emittente, no? L'ultima puntata in assoluto. Potrebbe. Questo non credo. No, credo. Potrebbe accadere di tutto, perché potrebbe. Può accadere di tutto. Oggi è sicuramente l'ultima puntata della stagione. Potrebbe essere anche l'ultima puntata. Ho un formicolio dentro. Dove ce l'hai? Nella testa. Nella testa. Un formicolio nella testa. Potrebbe anche essere l'ultima puntata. L'ultima. Lasciamo che la gente si scateni, però potrebbe essere l'ultima. Potrebbe essere l'ultima. Sì, ma l'ultima in questa radio, L'ultima in questa radio. Attenzione. Ma chi ne sa, magari che mi ritiro la vita privata, scusa, è troppo magari presto. Io mi ritiro la vita privata, tu ti sposi con Luxuria, che ne sappiamo? Io con Luxuria no, al massimo. No. Comunque, l'unica cosa c'è, io e te magari staremo ancora insieme a fare la radio, però magari, che ne so, tu a un certo punto quest'estate, domani verrai anche tu qui a Posta, magari arriverai con questa nuova fidanzata, che è questo transessuale rumeno, magari. Ma non c'è nessuna nuova fidanzata transessuale rumena, magari che stai parlando? Quella pseudo puttana ebrea che hai fatto intervista israeliana lì, che hai fatto quello. Mi piacerebbe, sì, quella, so io, quella... tutti i disastri. A proposito. Ho avuto molte critiche per la. Per la puttana ebrea? Per la puttana polacca ebrea di ieri sera. No, io ho avuto grandi elogi. Grandi elogi ho avuto. Polacca, con la musica di Faccetta Nera, ma ragazzi, ma di cosa parliamo? No, è tutto vero poi, ho controllato, no, è tutto vero. Ma degradato soprattutto. Ma che degradato, guarda. Molto degradato. Ormai è tutto degradato. Devo dire che l'intervista del giorno, oltre a quella che abbiamo fatto ieri a Galan noi, è quella di Pupo a Panorama. Il signor Pupo a Panorama, questo. Amico mio, dopo ve la racconterò. Tu, cioè, se tu toglievi la parola Pupo. No, io ci sono alcune cose che non mi piacciono dire, le cose che dice Pupo. Vedimi la parola Cruciani. No, ci sono alcune cose che effettivamente ho in comune a Pupo nei gusti sessuali. Poi vi illustrerò in maniera dettagliata quello che ha detto Pupo in questa intervista strepitosa a Panorama, in cui racconta la sua vita sessuale. Molte cose non erano un mistero. Alcune cose le ho in comune con il maestro Ghinazzi, altre cose no, perché non è che uno può essere simile. Per esempio, non riuscirei mai a stare con due donne in contemporanea nella stessa casa. Due donne in contemporanea sì, anche di più. Ma due donne in contemporanea, cioè nel senso avere molti rapporti insieme, ma non in due donne nella stessa casa, cioè avere due affetti, no? Due affetti nella stessa casa, il poliamore, insomma. Ecco, questo ancora non ci sono arrivato, vorrei arrivarci, ma è difficile, no? È difficile. Vabbè, iniziamo, dai, 800 24 00 24, andiamo a Siena, Luca, vai. Evviva, ultima puntata, vai! Luciani, io. No, che ultima puntata? Te ci devi fare godere, Borghezio, Bonà. Tormina le puttane, camionisti! Ma chi me le dà sto cofanetto di perle? Ma chi me lo dà? Ma io voglio Tormina che dice di aver studiato i froci! Ha studiato, ma questo è il numero uno, ma chi me lo dà? No, io non ho capito, tu vuoi calma, sempre, amico calma. Mio, Taormina, molti mi dicono perché non chiamate sempre l'avvocato Taormina, voi però non sapete, non conoscete, capisco, fate un altro mestiere, se io chiamassi tutti i giorni le stesse persone, poi si ammosciano queste persone, no, bisogna prendere... Ma metaforicamente te lo dico perché personale, è una metafora, sì, ho capito. Perle, il cofanetto di perle che apre la zanzara col carino. Vabbè, amico mio, ma se ce ne andiamo, amica, stiamo zitti, magari ci separiamo, magari vado a vita privata, mi ritiro a vita privata, che ne so, cioè mi vendo una casa e me ne vado. Io ti trovo i personaggi. Ma chi me trovi, amico mio? Tutti io l'ho trovati, tutti io e il branco di pazzi che c'è intorno a me abbiamo trovato i personaggi. Chi me trovi? Abbiamo i marocchini che vogliono prendere a pedate quest'altro immigrati. Ma chi siamo arrivati? Siamo al top. Siamo al top. Siamo le puttane, niente. Qui abbiamo i marocchini da noi. Marocchini. Sì, ma qui in Toscana, Parenzo, io sono senese, qui in Toscana, che è capito? È il marocchino, è così, viene chiamato. Vabbè, comunque Luca, guarda, è senese, cioè, ma Luca, non dice marocchino. Allora, Luca, il punto è fondamentale, anche se io me ne vado, com'è possibile? Non è che uno continua da un'altra parte, no? No, ma cioè, poi la vita anche continua. La vita continua, è vero, la vita continua, quello è evidente, tutto si dimentica, tutto passa. Un ricordo di questa esperienza che è stata la zanzara, ma ci sarà magari apriremo un bar, cioè non è che non bisogna per forza fare la radio, no? Te Parenzo, cioè la zanzara è Cruciani, te Parenzo sei lì calma, Luca, mi rimpiangerete, a un certo punto mi rimpiangerete, comincerete a dire dov'è quello che difende gli immigrati, dov'è esatto, dov'è quello che invece attacca gli aboli che per i bungalow fa le puttane e invece giustifica i rom. Ma te lo sai se fosse il 6% di rom, che cazzo famo qui, con che te lo mangi te il giorno il panino, sentiamo, l'avevi fatto un conto, solo se il 6-7% della popolazione dice adesso divento rom, perché sono a Roma, a nord legge del cazzo, invece Diaboliche che fa lavorare le puttane, ragazzi in gambissima, perché chi è Diabolica? Quello di Campo di Carne, sì, ricordo, certo. Dopo Diabolica faremo sentire tutto, ecco un altro maiale. Che sono delle signore. Guardati un video porno, dai, rilassati un po'. Ma che le puttane te le denigri? Poi magari ti incazzi con Taormina perché critica i gay. No, ma guardati, ma rilassati un po'. Ma guardati un po' di pario su canale 3, dai, rilassati. Perché trovi uno accendi canale 3, guardati il palio. Rilassati, accendi su canale 3, guardati il palio, dai, canale 3, ti guardi il palio e ti rilassi un po'. Sul cazzo il palio, figurati, io cavallo. Ma che c'entra il palio adesso? Perché di sera? Dico, siccome è tutto così focoso, ti rilassi, ti metti davanti alla TV, ti guardi il palio e questo. Ma il palio che c'entra, mica adesso il palio? Ascolta Parenzo, allora, te incazzi e clicchi Taormina su gay, perché è un pensiero suo, che poi il 99% della gente è così, non lo dice, ma è così, dentro è così. Poi rovineresti una famiglia perché uno si va a fare una scopata e a volte anche una chiacchierata con una puttana, che è uno sfogo, che ci sono delle signore puttane. Ha ragione Luca. La gente che è scoppiata a volte, c'è gente che ha pagato la puttana solo per parlarci. Parenzo, e te prenderesti il numero di tasca, andresti a casa e lo faresti inculare dalla moglie e rovineresti la famiglia. Ma vaffanculo Parenzo, come ti ci mandano il 90% degli ascoltatori. Fai audience, è giusto che tu ciao, ci sia. Ciao Luca, ciao. Ciao grande Cusani. Voi che andate a prostituta, vergognatevi, miserabili. Antonino da Padova, vai. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Dimmi. Un'osservazione a proposito della ragazza macedone, sì, che ha giurato amore, sì, eterno. È lei istigatrice dell'omicidio? Perché chi è che glielo diceva? Adesso istigatrice dell'omicidio, che ci aveva provato Ismaele. Gliel'ha detto lei, no? Vabbè, ho capito, ma non è che gli ha detto vai ammazzalo. Non è che ha detto vai ammazzalo. No, vabbè, ma per starsi zitta, no? Ma ho capito, dai, adesso si raccontano le cose. Per stupidità, per frivolezza, Perché gli altri? Ma guarda, adesso ti racconto una cosa, Antonino. Io tempo fa feci un errore gravissimo. Ero a Londra con un amico, ero ragazzino, e sapevo che eravamo ospiti a casa di alcune persone, e sapevo che c'era stato un tradimento, mettiamola così, no? Allora eravamo lì a parlare con alcune persone e ho detto a uno: ma guarda che secondo me, no, lui diceva, la mia ragazza è fedelissima, sono sicuro che non ha mai fatto niente. Io gli ho detto: bah, non mi risulta. Sì, sono stato uno stronzo, non c'è dubbio, non mi risulta. E da lì è successo un casino, noi ci hanno buttato fuori da quella casa. Un infame, non esageriamo. Ho capito, però non è che io sono colpevole. Mettiamo che quello gli parte la brocca e l'ammazza, non è che io sono colpevole, però. Ti ricordi la canzone Non è Francesca? L'ha innamorato, non ci vuole credere. Ma ho capito, ma non c'entra niente con l'omicidio. Il problema è la follia, la follia, ma soprattutto la gelosia. La gelosia ammazza le persone. Voi non avete idea di quante persone sono ossessionate dalla gelosia e dal possesso. È una cosa tremenda, la patologia della gelosia e dell'ossessione è incredibile. Amici miei carissimi, siete in ascolto, la pubblicità. La pubblicità. La zanzara. Lo so che la zanzara è una piccola enclave di cazzaroni rispetto a un palinsesto serio. Lo so benissimo. Lo so, Cruciani, che tu non sei Giannino, non sei Marisoni. Marisoni. Maiale, perché ci fa sentire tutte le sere le sue preferenze. Radio 24 è diventata radio porno. Era una bella trasmissione, lei l'ha rovinata. Luciani, io ho telefonato per dirle, io la voglio vivo, la voglio con le parolacce, la voglio piena di contraddizioni, mandi a fanculo, dica le parolacce, perché è nel contrasto che c'è la vita. Questa è la 24, vero? Per godere ancora un po', caro Parenzo, in quest'ultima puntata stagionale, forse ultima puntata della stagione, ma forse per sempre ultima puntata, dai. No, per sempre, perché per sempre insiste, so, ancora, ma, diciamo che per, ma perché per sempre? Che perché c'entra? Nulla è eterno, ovviamente, no, non ma per è sempre l'amore. Che c'entra per sempre, forse in questa radio, che c'entra, ma è no, per sempre, per io ancora essere... un po' voglio lavorare, amico può mio. Essere che al mio posto venga una transessuale, no, quello no, quello, può essere quello che non credo, quello può non essere credo. Che al tuo posto venga un sindacalista della CISL, no, qui a posto, qui non ci sono posti, al posto di cosa? No, ma voglio dire, nulla, siccome nulla è eterno, lasciamo questo dubbio che forse non ci saremo più, forse non ci sarò più, io non lo so. No, ma non è questione di dubbio. Non so io cosa mi succederà a settembre, è tanto settembre, è un mese. Now he's getting a tattoo, yeah, he's getting ink done. He asked for a 13, but they drew a 31. Io direi però di riascoltare una delle telefonate più belle degli ultimi tempi, in un Tipi da Zanzara special. Tipi da Zanzara special, il mitico Pierluigi da Latina. Il mitico Pierluigi da Latina, bisogna riascoltarlo per forza. Tipi da Zanzara, vai. Tipi da Zanzara. Pierluigi, vai. Pronto. Pierluigi, dimmi, caro, dimmi. Senti, volevo dire a Parenzo, ma che cazzo dice? Quelle mignotte che stanno sulla lettonense, non sulla cortina. Ecco, nessuna ecco è miserabile. Neanche una, io ne conosco perché 40. Lei è stata, stai tranquillo. Lei conosco fai 40, ecco il miserabile. Fai parlare i testimoni diretti, fai parlare i testimoni oculari diretti anche, forse. Ma direttissimi, io ne conosco 40, abitano tutte da Diabolik. Ne fosse stata una che c'ha il magnaccia, nemmeno una. Prima andavano nei night club, mo che c'è la crisi, non c'è più una lira e manco quelli che vanno a mignotte nei night, li spendono, vanno per strada. Ma se conosce, vai, divertiti, paga e divertiti con le sfruttate, bravo, e vantati pure. Bravo, siccome non te ne dà nessuno, devi pagare. Non ci ho mai visto, sono 22 anni a fianco. A chi? Ma ai zingari, io ho visto 22 anni a fianco ai zingari. Ne conosco 300, ne salvano 3 e due di questi, uno è morto e due stanno in galera, gli altri sono tutti delinquenti. E che devi fare? Le mignotte non sono nessuna sfruttata. ecco, Pierluigi, tu vai a puttane, le conosci oggi. Perché ci sei stato? No, cioè, no, le conosco perché sono amico di quello dove loro abitano. Dove mica tutte insieme abitano, 40 persone, 40 mignote tutte insieme abitano. Ma questo c'ha una specie di... Che c'ha? Non è una... bungalow dentro casa sua, era costruito un po' e li affitta tutti alle mignotte. No, cerchi di Diabolica, te lo dove? Te lo sulla indica. Pontina è questo? Campo di carne, sì, sì. Beh, omen anche. Queste lavoravano tutti nei night tra Anzio, Nettuno, Terracina, San Felice, senza essere sfruttate. Andavano nel night, davano la percentuale a quello del night. Siccome al night non c'è più una lira, non circola più denaro, stanno per strada e cercano un po' di... Si sono organizzate pure bene, perché c'è chi le porta col pulmino, c'è chi... Insomma, chi le porta si sanno anche difendere da loro, non è che non si stanno difendendo. Ma chi le porta col pulmino ste mignotte? Uno che... Almeno uno, un paio ne conosco che hanno il pulmino che le porta a lavorare. Insomma, ogni tanto le vanno a prendere. Cioè, si fanno pagare 5 euro? O se le trombano, insomma, dipende. Questo fa pure bene. Mi piace un mondo così. Tipi da zanzara. Questa era la prima parte, ragazzi, Più tardi la seconda parte. Pierluigi, Diabolic e le 40 mignotte. Il titolo di un film. Esatto, sì. E che cos'è? Allora, andiamo in provincia di Bari, Giuseppe, vai. Ma io volevo tornare alla notizia di oggi. C'è Pompei chiusa per un'assemblea sindacale. Non ti preoccupare, dopo abbiamo già dato e dopo continueremo a dare. Non ho mai visto il Louvre chiuso per assemblee sindacali. Vai, Giuseppe. Il MoMA nei Guggenheim. Pronto? Sì, dimmi, Giuseppe. Carissimo, tanti nemici, tanto onore per te. Chi sarebbero i nemici, scusami, come Giuseppe? Quelli che non ti vogliono alla zanzara, che ti vogliono far chiudere, così faccio intendere. Non lo so, chiudere un cazzo, ma che c'entra chiudere? Senti. Qui non chiude nessuno qua, qui non chiude nessuno, al massimo ce ne andiamo noi. Storiche. Senti, amico mio, però Giuseppe, il punto fondamentale è un altro. Tanti nemici, tanti onore, tanto onore è una cosa un po' fascistoide, diciamo la verità, no? È un po'. No, vabbè, ma si può dire ancora oggi, dai. Sì, si può dire, ormai sì. Solo Parenzo è rimasto. Tanti nemici a Taormina, uno ne parliamo, però lui si sente onorato. Vabbè, Giuseppe, allora che volevi dire? Assenta, io non voglio dire sto fatto, attenzione, a proposito di gay, quando ci sarà il nuovo dogma della Chiesa, ovvero... che potranno sposarsi sull'altare, il quesito è questo. Qual è? Il prete a chi si rivolgerà quando dirà vi dichiaro marito e moglie? Beh, cambierà la formula forse. A chi ha il nastro azzurro al braccio? A chi ha il nastro rosa alla fronte? Cioè, questo a chi ha il nastro azzurro e rosa alle braccia? Per dire questa genialità. Ma ti scusa piace? Giuseppe, magari cambierà la formula, sì. No? Vi dichiaro uniti in matrimonio, basta, senza dire marito e moglie, che pure è una formula uniti in matrimonio. Che pure una formula vecchia, è una formula vecchia, marito, moglie. Marito e moglie, dai, su una formula vecchia. Posso dire vi dichiaro marito e marito, ad esempio. No, ma è brutto, brutto quello là. Marito, marito, moglie, moglie. Ma no, è brutto. Consuetudine, quando diventerà consuetudine. Ma no, è brutto. Vi dichiaro uniti in matrimonio, basta, marito e moglie, una cosa vecchia, passata, super. Chi vuole trombasse? Forse. Ma non ho capito, Giuseppe, a parte che nelle coppie anche omosessuali c'è sempre, qualche volta ci si stabiliscono dei ruoli, ha mai sentito parlare di persone attive, di persone passive, di ruoli maschio? Sì, bisex, ci mancherebbe. No, bisex, che c'entra bisex? Bisex è un'altra storia, cioè ha mai sentito parlare di ruolo passivo, di ruolo attivo, queste robe qua? Sì, come no. C'è chi fa la femmina, c'è chi fa il maschio, vabbè, questa roba qui. Bravo, ecco perché io insistevo Ma non ho capito, che cos'è che ti sconvolge del fatto non succederà mai? Per me dovrebbe succedere. Pensa che cosa fantastica, Parenzo. Un prete che in chiesa sposa due gay sull'altare. Questo non credo. Beh, meraviglioso. Sarebbe stupendo. Meraviglioso. Si baciano con i parenti dietro che applaudono. Cioè, magari qualche vecchietto che si incazza. Non è possibile. No, il vecchio nonno, no. Rincoglionito che sta là che dice: non è possibile. Chi è questo mio nipote? Si è sposato con un maschio. Che schifo. Me fa schifo, ma che te devo dire? Non lo so. Ciao Giuseppe, Stefano da Roma, vai. Ciao, Stefano. Ciao. Ah, ma tu sei un te posso dire che sei un mostro tra Marinetti e Sgarbi. Che sono? Tra Marinetti. Marinetti mi sembra un po' troppo. Sgarbi sono onorato. Sgarbi sono onorato. Marinetti. Marinetti mi sembra un po' troppo, francamente. Io voglio sapere, sono mesi che cerco di parlare, ma perché ce l'hai sempre con Marino? Hai detto stasera. Ma non ce l'ho io, non ce l'ho io con Marina. Non ho detto, me lo cacciate, non lo direi mai. No, Marino ha fatto 500 denunce. 500. A parte che il sindaco non deve fare denunce, ma deve agire. Denunce, che vuol dire denunce? Io voglio sapere. Io ho detto semplicemente. Da farsi pubblicare da Caltagirone, da Berlusconi. Da chi? Io voglio sapere perché questa trasmissione è così sbilanciata. Ma con chi? Ma questa. Lo spanculano tutti! A Parento lo spanculano tutti! No, allora, Stefano, devi stare calmo, fermo che non ti si senta. Ma avvicina la bocca al microfono, togli il viva voce, cerca di essere più comprensibile per tutti. Qual è la tesi di questo signore? La tesi è che questa trasmissione fa una campagna contro Marina. A parte che noi non ce lo inculiamo proprio, che di solito non ci occupiamo mai delle cose locali. No, primo questo, Stefano, aspetta, stai calmo. Primo questo, noi non ci occupiamo quasi mai delle cose locali. Credo che da quello che leggo nei sondaggi, che i primi a fanculizzare o a sfanculare Marino siano i cittadini romani, no, per il momento. Anzi, io l'ho difeso quando Renzi ha detto che insomma più o meno ha lasciato intendere che doveva dimettersi, e l'ho difeso dicendo che i cittadini romani l'hanno votato e deve rimanere fino alla fine della legislatura. Se il PD vuole cacciarlo, lo faccia in modo aperto, sfiduciandolo all'interno del Consiglio Comunale. Vabbè, ma quello non è il punto. Qui non voterò mai più. Vabbè. Mai più voterò il PD. Ma amico mio, non ti sentiamo. Marino sta facendo quello. Io ho 60. Sì, però non ti sentiamo, amico mio. Devi parlare senza viva voce. Su, dai. Stefano, se... qualcosa c'hai, non lo so, cioè, o ti senti male? Aspetta che vedo, guardo bene, aspetta. Avvicinati di più, adesso sento non di più. Non c'ho il viva voce, sarà rimbombo, non lo so. Allora... Lo sai chi era Cioccetti? È stato uno dei primi sindaci di Roma. Ti si sente poco, non mi rompere i coglioni, dai, Roberto da Macerata, dai, Roberto, vai. Roberto! Che cazzo, dai, Marino, da Lucca, amici miei, dai, forza! Ciao! Dai, Marino, dimmi. Forza, su! Ascolta, io ti dico una cosa, no, io sono di quelli che sono sposato, faccio il camionista e vado anche a puttane. L'altro giorno... Oh, questa va, fermi tutti, Marino da Lucca, sei sposato, sei sposato. Certamente! Beh, certamente, però dillo anche apertamente, come si chiama tua moglie? Dillo allora, dillo. No, amico mio, no, che fa, sente la radio? Non sente la radio tua moglie? Si chiama... te lo dico, non mi importa una sega, si chiama Francesca. Ma, io non so, ma la sente la radio o no? La sente la radio? No, lei accoglie le patate ora da un amico, figurati. Siamo al top, aspetta, fermi tutti. Marino da Lucca, autotrasportatore, marito, cioè sposato, va a puttane, poi che altro c'era ancora? Sente la zanzara, questa è la gravante. E la moglie raccoglie le patate, in un campo. Fermi, pubblicità e torniamo. Adesso la borsa. La zanzara. Di figa, per favore, a noi non frega in casa di niente. C'è sempre meno figa da voi in trasmissione. Col mitologico Marino da Lucca, autotrasportatore, puttaniere, ha detto, è sposato. Sono camionista. Sì, vabbè, è uguale, dai, camionista. Allora, io ti dico una cosa, siccome la tua trasmissione ci sono tanta gente che fanno paraculi, allora ti spiego io. Dimmi. Io l'altro giorno ero a Battipaglia, a Caricacco Comeri, e mi venne, siccome ora vengono dove ci sono poi i ristoranti, vengono, ci sono attrezzati questi qui per guadagnare, quella è gente che fa godere la gente e vendere, no? Non è che va a vendere la droga, fa godere la gente come noi. E io me la presi, però attenzione, quando me la metto sul camion me la metto sul pulettino, io mi faccio fare un pompelmo perché non mi garba, perché poi sta male, insomma, non... Capito? Ascolta bene. No, non ho capito. Che cos'è che ti fai fare? Cos'è che fa fare? Il pompelmo, no? Un po' se sei volgare. Ho capito. No, per capire è una questione. Sempre col cappello. Delle volte me ne metto anche due. E dopo il problema è quando le levo che ti strappi il pesce. Quello. Chiusi le tendine e venne la madama, o noi si chiama la puffetta dei puffetti, sì. Mi bussarono e mi disse: ma chi è? Che disse, guarda, e mi faccio fare un po' pelmo. E sai, siccome io quando sono dentro il camion, sì, e sono in casa, loro possono montare sul mio camion, se mi fermano mi guardano il tachigrafo, vogliono vedere i documenti, dunque, se c'è qualcuno. E niente, insomma, mi guardarono un po' male. Lei ci rimase, insomma, di stucco, dice, strano, ma insomma va bene. Niente, poi te ne racconto anche un'altra. A Serravalle, a Serravalle dove c'è l'Aulette. L'Outlet, fa, sì, l'Outlet. L'Aulette, quello grandissimo. Sì, sì, dedicava, e io dovevo scaricare la mattina, andai a cena lì, c'è una trattoria di cinesi, insomma, vabbè, lasciamo perdere. Dice, vuole andare a rifarmi un po' l'occhi. E mi monto, vedi una lì che aveva una pilliciona, me l'aprì, era con le mutandine tutta nuda, ma d'inverno le ma dove questo? Dove? Serravalle. Ma non ho capito che era una prostituta all'interno dell'outlet. No, erano sulla strada, ma non era una prostituta. Quando la montai su in cabina, già vidi le mani un po' grosse e le scarpe, insomma, allora? Niente, mi feci fare un pompelmo ed era un viato, ma tu sapessi che goduria! Mi ritiro anche le palle. Ma a pagamento, tutto ciò a pagamento? Sempre, io ho famiglia, non voglio rovinarmi come tanti miei colleghi con la ganza, ma anche che poi l'altra sera a trattoria, a pagamento, 20-30 euro un pompelmo. Sempre i pompelmi, sì, sempre i pompelmi. È anche raffinato Marino da Lucca con questa storia del pompelmo. Da questo punto di vista è raffinato. Volevo capire, mentre lui fa tutti questi pompelmi in giro, non è che la moglie è da meno, perché quella si diverte nel campo di patate, evidentemente. Sì, no, ascoltami, io glielo dico, perché io ho 36 anni che ci sono insieme e ogni tanto mi dico, perché poi per l'appunto, poveraccia, ne è venuta anche quella cosa. Appunto. Che viene a 52 anni, io ne ho 57. Ecco. E glielo dico, guarda, mi che sono... Che viene a 52? Ci vuole anche un po' di c'è chi ci fa gli scambi, io no, io mi dico, guarda... Il dottore ha detto che siccome col lavoro che facciamo abbiamo un po' la prostata infiammata e bisogna evacuare o sbrodare, come si dice. Dai, ma Marino, ma che volgarità è. Però io voglio dire... Perché ma ho capito perfettamente, però questo augusto intervento, diciamo, questo intervento aulico, questo intervento di descrizione di una vita passata tra outlet, stazione di servizio... 32 anni, per carità, porcherie di ogni tipo, sfoghi, eccetera, eccetera. E tu hai chiamato alla fine per quale motivo? Cioè, per raccontare, va benissimo. Per quale motivo? Perché sento dire delle volte, l'altro giorno se ne dicesti a Parenzo se lui era mai stato a prostituta, lei disse di no, te dicesti sì, io quando sono stato, ci sono stato, volevo dire quello. E volevo dire anche che hanno rotto i coglioni, l'hanno levate dalle strade che sta male, no? Sono come te che dovrebbero, invece di stare a fare le leggi a cazzo, dovrebbero riaprire i casini. Anche la mia moglie ha detto che la mia figliola che firmerebbe, capisci? Sì, ho capito bene. Ho capito. Anche una figlia, Marino, tra l'altro, conto, tutto questo. Lei si rende conto che c'è, però ci sono delle ragazze prostitute che sono sfruttate, quindi lei si rende conto di essere un miserabile? Sì, quello è vero. Bravo, quello è vero. Allora. Se riconosce che è vero, si rende conto che lei è un miserabile? No, che un miserabile. Ma io sarò anche un miserabile, però se voglia di siccome a me è gratis, me la nessuno, capisci? E quando una volta lo faccio. Scusami, abbi pazienza, siccome è gratis non gliela... un bel film. Ma siccome siccome è gratis non gliela dà nessuno e siccome non uccide nessuno, paga una per... Io ho sempre detto che c'è lo sfruttamento delle Oddio, che palle. Marino, tua moglie è un miserabile. Marino, sei un miserabile. Sono contento io. Che gli frega te? Quello che dico faccio come te sei di quelli che quello che vedi lo dici e lo dico anch'io. E Dio buono. Quando vado a caricare alla Mapei, se vedo il dottor Squinci, gli dico non fatele chiudere la zanzara. Chiuso, basta. Vabbè, ma che c'entra? Mica chiude la zanzara. No, l'ho sentito di prima. Sì, ma non è che chiude. Ma non è che chiude. Ragazzi, adesso non è che chiude. Cioè, il punto, nessuno chiude. Cioè, perché... No, ha detto che te vai via. Ma io potrei andare via. Posso andare via, vorrei, forse. Certo. E io la sera quando alle 6:30 che comincia, che mi chiappa il sonno, che fino alle 8:30 che devo guidare, magari nessun c'è la zanzara, ma addormento, per me sarà personalmente, a parte a te ti importa una sega. No, mi importa, come no, mi importa moltissimo. Però voglio dire, perché? Non è che se uno va via da qua finisce la vita, cioè non è che ci sia solo questo di posto dove trasmettere. Cioè, magari se ne trova un altro, tu basta che magari cambi. Ti dirò anche di più. Io vedi anche per motivi così, per sono di quelli come fanno tutti, dice la corruzione. Io ho votato. Prima votavo sempre il Movimento Sociale Italiano quando c'era Almirante, poi Alleanza Nazionale mi ha fatto schifo, mi ha fatto schifo quello imbecille di Fini, e poi per far contento un amico, perché dove sto io, ho votato il partito di quello stupido, no stupido, stupido quando parla perché mi garba quando ha il microfono, che lo vedo. Chi? E Parenzo, no? Lui è del PD. Renzi, hai votato per Renzi? Io ho votato per Renzi, per uno che addirittura lui non era neanche del comune come sono io, comune di Lucca. Vabbè, ma chi hai votato? Del PD? Figurati. Vabbè, comunque per il PD hai votato. Certo, te l'ho detto, perché non c'è mica niente di male. Io sono di quelli che dove mi fanno piaceri, sì. Perché in questo mondo io siccome giro... Marino però è interessante, perché è passato, Parenzo, dal Movimento Sociale a Renzi praticamente. L'ultima, ora però rivoto, e ora rivoto... La Meloni, perché prima cosa mi garba, anche fisicamente è cambiata. Mi garba pure fisicamente, qua. È cambiata, sì, effettivamente è cambiata. E io dico, io quando vado a trattoria o la self-service, mangio con gli occhi, capisci? Te la mangi con gli occhi? E quando vai al self-service, se vedi una cosa bella, la mangi con gli occhi. Beh sì, certo, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Io vorrei capire una cosa, Marino, ma tua moglie è consapevole, è interessante, a tua moglie che si chiama Francesca. Allora, io te l'ho già detto prima. Ma è consapevole del fatto che vai a troie, sì o no? Ogni tanto sì, glielo dico, e lei si dice imbecille, stupido, così, e tanto sa che, anzi, ci vuole più bene ora che lo facciamo molto di raro, a parte ne è venuta quella cosa che viene alle donne a 52 anni. A menopausa, vabbè, ma se scopa lo stesso. Allora, mi tornava un po' male, se mi sente la mia figliola... c'è da sentirla, ma io siccome sono di quelli che parlo chiaro, non voglio perdere la testa, perché anche a me con la mia chiacchierina li troverei da andare a qualche ganzetta. Mai detto che gratis non te la danno, mai detto. Però insomma, c'è un mio amico l'altro giorno a trattoria, eravamo a Borgosaro. Questo trattoria. Sì, a Berceto. Sì, ma disse, ma lo sai quella mia ganzetta, sei separato ora dalla moglie, disse, ma era di febbraio, di febbraio, certo. Mi portò la bolletta del gas della Gesamme di Lucca, 287 euro, e lui stava lì e mi disse, cioè, mi paghi che quella ma perché ti ha portato la bolletta, non ho capito, perché capisco. Siccome l'ha portata al suo amante, che sarebbe, ma ho capito, ma io non è che porta all'amante la bolletta da pagare, scusami, certamente, ma le donne sono fatte così, ma che credi? Parenzo, non intervieni, sei basito di fronte a questo racconto di vita favoloso, Marino, no, da Lucca, molto bello, ti sei chiesto perché non chiama Barisoni, diciamo, no? Ma è interessante il racconto di questo signore, ma non questo... è interessante, io ti sto dicendo la verità, perché ti voglio dire però questo di ma io, tu che telefoni e dici che vai a prostituta eccetera, e la moglie, io mi mettevo nei panni di tua figlia e di tua moglie, per cui l'imbarazzo che tu proverai, ma tornando a casa, dai. Quando tua moglie sentirà che tu abitualmente vai a prostitute, ma no, parliamo di chiaro. Perché siccome le vogliono levare dalle strade, ti vogliono fare le multe, ma come, uno mi monta una sul camion, se viene, per male era la stradale, se era la municipale mi faceva la multa. Va bene, Marino, ti abbraccio, ciao tesoro, ciao. Ma chiudete la zanzara, Ciao. Alessandro dalla provincia di Lucca, vai. Marino, ricordiamo per chi si fosse messo in collegamento. Oh, però ora non è Ignazio Marino, il sindaco di Roma. No, vabbè, Marino era un camionista che va a prostituta. Nessuno ha mai pensato che fosse Marino, dai. No, però su. Magari sai, Squinzi magari gira la radio e dice grazie Marino, pensa che abbiamo intervistato Ignazio Marino. No, e invece poi va a scoprire che è un altro personaggio. Ma solo tu, solo tu puoi pensare che uno sta lì e no, crede io. Che sia Marino. Dai, io Marino. Mi metto nei panni dei vertici dell'associazione che rappresenta gli imprenditori, che magari accende alle 19:44 e sente giustamente che c'è, dice allora grazie Marino. Ah, io ho capito, immagino, grazie Marino, sì. Esatto, io che possono immaginare che c'è il sindaco di Roma. Invece esatto, no, è un signore che dice che va abitualmente a puttane. Che va abitualmente a puttane, che ha la moglie che si chiama Francesca. Che raccoglie le patate, vuole le case chiuse, vuole la zanzara, va a mangiare nelle trattorie, eccetera, eccetera. È un benemerito per me, fa un lavoro terrificante. No, è un benemerito anche lui. Dove eravamo? Alessandro, provincia di Lucca, dai. Sì, ciao, buonasera e grazie per l'opportunità. Io mi volevo ricollegare lì a sì. Pompei. Che c'è a Pompei? Che succede? Che succede? Niente, e volevo dire una cosa. Ma è possibile che la decisione di una o di 10 persone debba lasciar fuori 2000 persone? I prefetti che sono così tanto bravi a sistemare clandestini sopra, sotto, di qui e vabbè, di là, non è che adesso non è in grado di dire ma cosa fai te? Alessandro, il problema fondamentale è che il problema fondamentale è la responsabilità. Se ci sono sindacalisti, come il caso di questi qua, non responsabili, è evidente che se uno interrompe il lavoro la mattina, i cancelli non si possono aprire, non c'è magari il personale adeguato per accogliere i turisti dentro un sito, e per due ore americani, italiani, tedeschi, inglesi, rimangono fuori. È una vergogna, è una vergogna. Ci avrà un nome e un cognome, cioè dico, ma certo, adesso fra poco ma adesso lo richiamiamo, te lo faccio sentire il signore, tu sentirai, ecco. Sentirai cosa allora dice il signore. Io mi rivolgo anche agli amici campani, no? Che ci sarà un indotto che lavora, ma non è possibile andare a prendere per un orecchio e dirgli una cosa. Altro che orecchio, su. Cioè, mi ha mandato un messaggio Sgarbi. Mi ha mandato un messaggio Sgarbi che dice: non è consentito dire inesattezze come quelle che ha detto ora Parenzo. Ma che hai detto, Parenzo, adesso? 19:46. Cosa hai detto? Ho detto, su Marino, ho detto che abbiamo intervistato Marino. No, un'altra cosa. Vittorio, mandami un altro messaggio, precisami esattamente l'inesattezza che ha detto Parenzo. Che avrebbe detto. Ecco, certo. A Serravalle dove c'è l'Aulette. The sun comes out, last night was shaking and pretty low. Allora, per l'ultima puntata dell'anno e forse della vita della Zanzara qui su Radio 24, Vittorio Feltri in diretta da Bergamo. Buonasera Vittorio. Buonasera a tutti voi. Ultima puntata dell'anno. Ma cosa fa Bergamo con sto calma? Mi hai allarmato. Ti ho allarmato un po', sì, è vero. Tu sai, si chiude, caro Vittorio. Si chiude no, tutto. Ma si chiude tutto, che vuol dire? Si chiude tutto a fine. Non si chiude niente. Si chiude Baracca e Burattini, e al posto di Parenzo ci sarà una trans, e al posto di Cruciani un sindacalista della CISL. Ma caspita, che progressi. Hai capito? Sarà così la Zanzara. Una trans e un sindacalista della CISL. No, rimane fuori. Mi dispiace che non ci sia Landini. No, il punto fondamentale non è questo, è che questa è l'ultima puntata dell'anno, potrebbe essere anche l'ultima puntata qui su questa emittente. No, si chiude tutto definitivamente, basta. No, ma perché basta, si chiude tutto? No, si chiude tutto, non si può chiudere tutto, perché io ho bisogno di lavorare, primo perché me va e secondo perché mi piace. Dunque Parenzo, tu puoi anche non lavorare. Ma diciamo che si chiude, così sale l'aspettativa. Ma no, ma non se pagano di più, no. E siamo tutti felici. Vabbè, adesso tutto. Se lo dichiari non è vero. Se lo dichiari, siamo in onda. Vi faccio una proposta: apriamo una pasticceria tutta nostra, così facciamo il grano. Ma perché dici la pasticceria? Per forza la pasticceria, Vittorio? Perché Crozza è suggerimento di Crozza, io vorrei metterlo in atto. Ah, tu hai il mito di Crozza, mito non ce l'hai di nessuno. Ascolto i suoi consigli preziosi, specialmente quelli di Razzi, no? Quelli di Crozza. Beh, assolutamente. Ma Razzi, secondo te, è il top in televisione in questo momento, tu che sei diventato ormai un critico televisivo, diciamo, no? Ma tu pensa cosa mi è toccato fare nella vita. Quando uno ha il tempo, qualche minuto da passare davanti alla televisione, ti capita anche di diventare critico televisivo. Che devi fare? È il top allora o no? Chi? Crozza? Crozza, sì. Beh, è il top come politologo italiano. Ah, politologo addirittura. Come comico, come imitatore. Come politologo effettivamente non ha rivali. Non ha rivali, cioè è quello che sa analizzare meglio. È vero che è stato il primo, sì. Crozza, il primo a pizzicare Renzi nel suo cazzonismo, cioè a individuare il cazzonismo renziano. È vero, l'imitazione di Renzi non è formidabile dal punto di vista, diciamo, della riuscita, del, del, la somiglianza, però sì, devo dire che invece interpreta perfettamente il pensiero renziano, non essendo. Devo parlare io. Che è successo? Chi è che si inserisce? Chi è che si inserisce? Qualcuno con Vittorio? Chi c'è? Via di Renzi. Ma che c'è? Ah, Parenzo, sta parlando Parenzo, che c'è? Chi è? Parenzo, che c'hai? Parenzo? David? Ma chi c'è là? Togli là, caccia le persone. Chi è? Oddio, Natania. Non so perché mi ha passato il telefono, David. La fidanzata di Parenzo, mamma mia. La fidanzata, compagna, quello che vabbè, è. Chi devo salutare a parte te? Ma non devi salutare nessuno, non bisogna salutare nessuno. Nessuno bisogna salutare. Come sei maleducato, mamma mia. Ma no, io ti saluto, ti abbraccio, ci vedremo domani. Però adesso non è che possiamo fare... Cioè, avete, qualcosa, avete qualcosa da dire? Vuoi salutare Feltri? Certo. Dottore Feltri? Quale Feltri? Feltri Vittorio. Vabbè, l'unico quindi. L'unico, beh, se ci sono altri Feltri, scusa. Sì, c'è il figlio e un omonimo. C'è il figlio e un omonimo. Però Feltri, quando uno dice vuole salutare Feltri, è Vittorio Feltri. Però voglio dire una cosa, ma tu il migliore è l'omonimo, devo dire. Il migliore è l'omonimo, quello che sta al fatto, dici, no? Quello che sta al fatto. Bene, è omonimo di cognome. Omonimo di cognome, certo, certo. Io vorrei chiedere però a Vittorio se hai mai visto Natania Zevi, la compagna di Parenzo, in televisione, se ogni tanto la noti, l'hai notata. Guarda, non l'ho vista, mi è stata descritta e ho avuto una botta di invidia nei confronti di Parenzo. Di Parenzo, diceva una botta. Mi sembrava all'altezza di una simile impresa, però davanti ai fatti, diciamo. Sbagliano tutti, Vittorio. Chi sbaglia in questo caso? Parenzo? Ah, tu hai sbagliato. Certo, sbagliato. Tu dici che tu sei troppo bella per stare con uno come Parenzo. Diciamo, hai una, come dire, una. No? Guarda, che non è conveniente prendere il telefono al posto di David qua alla Zanzara. No, infatti, io pensavo che meglio. Non è conveniente. Niente. Cioè, no, adesso vedo. Feltri ha appena detto che in fin dei conti Parenzo ha avuto una botta di culo, giusto Vittorio, se interpreto bene? Sì, questa sì, perfetta, è una sintesi brutale ma perfetta. Va perfetta, però dici di non averla vista, te l'hanno riferito. Agorà, non lo vedi o è troppo presto la mattina? Quel programma su Rai 3 che si chiama... Come sai, io la mattina mi alzo molto tardi perché alla sera vado a letto presto, quindi no... Aia. E quindi non l'hai vista in tutta la sua magnificenza. Va bene, cara Natania, ci vedremo domani. Adesso possiamo proseguire questa trasmissione oppure dobbiamo... Non lo so, adesso vediamo. Intanto mi devi salutare bene, mi devi dire ci vediamo domani. Va bene, sì, lo sai che ti voglio bene in fin dei conti. Dai, ciao. No, questo ciao. Lo so, è facile. Ciao. Momento familiare, momento ecco. Familiare alla Zanzara. Voglio capire una cosa. Il momento perché io sono in camera. In camera, distesi sul letto. Sì, ma io ho capito, non devi peggiorare la tua situazione. Cioè, state trombando? No, no. No, adesso questo non è. Però è interessante, no. Potrebbe Natania farti un lavoretto. Facciamo niente. No, si potrebbe fare un lavoretto mentre fai la Zanzara. Beh, allora. Sarebbe. Scusa, Vittorio, tu hai mai fatto. Siamo tornati, no, da un bagno in piscina. E il dramma della giornata. Beh, non era tanto. Tu capisci come lavora Parenzo, no, Vittorio? Aspetta, Vittorio. Aspetta, spiego al direttore Feltri che può capirmi. Il dramma della giornata, il mio dramma della giornata, non è tanto Pompei, il caos dei trasporti. L'acqua della piscina, cioè è un grado meno caldo di ieri. Cioè, questo è un problema. Ah, questo è un dramma, questo è una cosa. E poi tu hai il diritto dovrebbe mobilitarsi immediatamente. E tu hai il diritto di incazzarti con quei sindacalisti di Pompei che magari. Ma certo! Nonostante. Ma c'era un grado meno della piscina. Piscina che è inserita in queste grotte dove c'erano degli spruzzi di acqua, eccetera. Questo è Parenzo, signori, che è stato ascoltato. Era acqua, un grado meno calda. Spruzzi potevano essere se non di acqua. Sì, effettivamente, che cosa poteva essere, scusa? Erano per forza... Dà fastidio al bambino, capito, che sia un grado meno... Allora, signori camionisti, proletari, no, operai che siete in ascolto, questo è il modo di lavorare del signor David Parenzo, il quale ha passato tutta la giornata in piscina e adesso Lillo alle 18.30 si presenta alla radio e pretende anche, come dire, di sapere le cose, cioè in realtà non sa nulla, va così, improvvisa. Non è un caso che Parenzo sia di sinistra, Non è un caso che sia di sinistra, questo ecco. È vero. Allora, nei confronti di chi, caro Vittorio, definisce miserabili le persone che vanno a Mignotte come Parenzo, come risponde? Perché è stato uno dei casi della Zanzara degli ultimi 10 quelli giorni. Quelli che vanno a Mignotte, momento, con le prostitute sfruttate, ovviamente. Ma uno non può chiedere la carta d'identità alle prostitute, capito, però. Tu capisci? conto sono l'escort, un conto sono quelle della Malaria, ad esempio. Vabbè, come rispondi a Parenzo, Vittorio, se hai voglia di rispondere? Io non ho capito il concetto, cioè Parenzo con una moglie così va anche a Mignotta. No, mai fatto in vita no mia. Quello dice di non averlo mai fatto, che è sempre negativo. Ti giuro. È vero che l'ha fatto. Di solito quando si nega è vero. Non ho mai sentito nessuno ammettere di andare a Mignotta. No, ma io, Vittorio, ti giuro, veramente, te lo dico, non ho nessun problema, non sono mai stato a Mignotta, perché non ho mai avuto bisogno. Ma tu sei andato, Vittorio? Qualche volta sai cosa ti stai perso. Ho capito, ma se a voi piace così. Tu sei andato qualche volta? Perché sto qua. Sei andato qualche volta o no? Io? Non ho fatto altro nella vita. Come non ho fatto altro? Cioè, voglio dire, hai cominciato da giovane e hai proseguito, diciamo, in maniera un po' più... Ho tenuto un ritmo. No, vabbè, d'accordo, quello sessualmente in generale o proprio, cioè tu... Io sono con mia moglie anch'io, che mi fa dei segni, mi redarguisce, mi indirizza. Vedi, vabbè, ma se... Entri con il marito, io con la moglie. No, vabbè, adesso però se fate le trasmissioni accanto, se state alla radio accanto alle mogli e non potete di niente... Ho capito. A Bergamo con la moglie, io no, sono... Ma lei, mia moglie mi suggerisce delle cose incredibili. Cioè, io non ho capito una cosa, tu quando sei stato a puttana per la prima volta, Vittorio? Come dici? Quando sei stato a puttare per la prima volta? Se sei stato? Dunque, avevo 33-34 anni. 33-34. Ho fatto un servizio per il Corriere della Sera, quindi ho anche i documenti e ho fatto la nota spesa. Hai fatto la nota spesa? Questo. Hai fregato il Corriere della Sera. In questo senso ho battuto anche Parenzo. Diceva Montanelli, sì, in questo bravissimo effetto invidiabile, dice Montanelli quando mandava le note spese diceva l'uomo non è di legno. Non era lui, ma era Virgilio Lilli. Ah, scusami, è vero, Virgilio Lilli. Beh, Parenzo, non puoi però... No, però ricordavo questo competere aneddoto. Però comunque l'uomo non è di legno, Beh, non ho la capito. Verità viene sempre a galla. E quante volte... Ma neanche le donne, No, per carità. Però, come dire, andare a prostitute, cosa c'è di... poi ci racconterai, prima la pubblicità, 800... Fai allontanare tua moglie un attimo, 800-24... Sì, le dico di andare in bagno. 800-24-0024, a tra poco. Niente, mi feci fa un pompelmo d'era un fiato, ma tu sapessi che goduria! Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato, pubblicità. La Zanzara. E io la sera quando alle 6:30 che comincia, che mi chiappa il sonno, che fino alle 8:30 che devo guidare, magari e sul c'è la zanzara, ma addormento, per me sarà personalmente, a parte a te ti importa una sega. Allora, questo era un camionista particolarmente incazzato per quello che abbiamo detto all'inizio, c'è la possibilità che questa trasmissione chiuda Baracca e Burattini e che si trasferisca altrove. Parenzo, allora io vorrei far ascoltare però a Vittorio Feltri una cosa, perché abbiamo pizzicato uno dei sindacalisti, per cambiare argomento, poi torniamo sul sesso, uno dei sindacalisti che sono stati protagonisti dell'assemblea che ha chiuso Pompei per due ore chiusa Pompei alla fine di luglio con turisti, che l'Italia è irrecuperabile, diciamo la verità, da questo punto di vista alcune regioni sono irrecuperabili, cioè non c'è niente da fare, per esempio il sito di Pompei io lo affiderei, come disse una volta Luttuak, io direi all'ONU. Che cosa disse? No, alla NATO disse, no, figuriamoci, ha detto all'ONU, disse la NATO dovrebbe gestire il sito di Pompei con i militari, che accolgono le persone, bellissimi, invece dei funzionari che ci sono adesso. No, questo tizio si chiama, com'è che si chiama questo tizio? Pepe, dottor Pepe, sindacalista, credo, della CISL. A lei pare normale che uno rimane fuori per un'ora e mezza con le file, le code, i turisti alla fine di luglio? Le pare normale a lei? Ritardare l'ingresso non è proibirlo, è diverso. C'era una coda, ma chi l'ha vista questa coda? Ah, non c'era. Una coda di turisti sotto il sole che stavano lì. Invece quando sono entrati con l'aria climatizzata. Guardi che dentro fa più caldo che fuori. La cosa più sorprendente è questa, dentro fa più caldo che fuori, dentro fa più caldo che... Capito, Vittorio, come rispondono? Sembra che questo sindacalista mentalmente sia perfettamente in linea con la media dei sindacalisti italiani, nel senso che c'è persino chi è peggiore, ma c'è anche qualcuno che ragiona un po' meglio. Questo sta perfettamente nel mucchio, quindi non mi sorprende, perché le stupidaggini che più grandi che ho sentito dire nella mia vita le hanno pronunciate i sindacalisti. Beh, devo dire che i sindacalisti da questo punto di vista hanno la palma, hanno la palma d'oro. Tutti. A Pompei c'è un caso particolare di questi qui che si sono incancati per anni, hanno fatto il buono e il cattivo tempo. Non tutto il sindacato, non è così tutto il sindacato. Senti, ma tu sei ancora in stanza con la tua compagna, Parenzo? O è andata via? No, è uscita perché è andata a fare, credo, l'aperitivo a bordo piscina. Beh, l'aperitivo a bordo piscina. Io sono rimasto qui la con sinistra, voi. La sinistra, tutta roba di sinistra. O caviar. Ma non ho capito perché, non ho capito la perché. Sinistra, non ho capito caviar. Perché uno non può fare un aperitivo, non ho capito. Ma no, è tutta la sinistra o caviar. Voi pensate che uno di sinistra deve mangiare no, pane e merda. La sinistra chic, la sinistra chic, quella a cui ma guarda Vittorio, io quella alla quale tu pensi quando dici qualsiasi parola, tu credi di dover compiacere il conformismo più bieco della sinistra, buonista, chic e anche politically correct. Cioè quelli che per esempio pensano... Coniato che... questo, guarda, dimmi. Che è liberté, égalité e jet privé. È un po', ecco, sì, è così. Credo che sia una triade azzeccata. No, sì, però che basta scherzi. Che non rompi i coglioni a me, io aggiungerei. Cioè, nel senso che il punto fondamentale è che poi protestate, tu protesti contro quelle persone che non vogliono, per esempio, che un immigrato pascoli intorno a casa sua dalla mattina alla sera, che legittimamente, avendo fatto un mutuo, avendo pagato, eccetera, ha così, come dire, provoca un piccolo fastidio, dico un piccolissimo fastidio del fatto che gli sia recapitato un immigrato che, per carità, tutti ti del mondo vicino a casa sua, lo vorrebbe in una zona il più lontano possibile da un centro abitato, mica perché per forza è razzista, semplicemente perché uno ha pagato, ha sudato, eccetera, e non vuole un immigrato vicino a casa sua, soprattutto un immigrato che non si sa da dove viene, che non si sa che cosa abbia fatto, che non si sa per quale motivo stia lì, che non si sa se è un profugo oppure veramente abbia bisogno, abbia diritto all'asilo, oppure è semplicemente uno che è scappato perché vuole mangiare di più o perché ha bisogno di lavorare, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è il punto poi fondamentale. Però io voglio tornare alla questione delle prostitute e voglio chiedere a Vittorio, perché questo è un dibattito che ci ha coinvolto negli ultimi giorni. Sì. Veramente, come sostiene Parenzo, chi va a prostitute è un miserabile, cioè nel senso che alimenta il mercato dello schiavismo? Perché questo è veramente, io lo trovo assurdo. Vittorio Sgarbi qualche istante fa, ci stava ascoltando, ha detto una roba, se il cliente di una puttana è un miserabile, le puttane di cosa vivrebbero? Cioè, le puttane convinte, naturalmente, no? Quello è un altro discorso. Beh, no, non è un altro discorso, è l'unico discorso che fai. Quelle convinte vuol dire che non sono sfruttate. Beh, ho capito, ma c'è sempre uno sfruttamento, se vuoi. No, vabbè, uno ha la sua detta che liberamente decide di vendere il proprio corpo, c'è il calciatore che vende le gambe, un'altra che vende un altro vabbè, organo. Vittorio, che dici tu? Ma io credo che il discorso che fa Parenzo è, diciamo... sfiora il luogo comune della sinistra, per cui le puttane sono sfruttate, sono tutte diciamo schiavizzate. In realtà molte puttane lo fanno questo mestiere semplicemente perché guadagnano più soldi che a fare le badanti, quindi c'è poco da mitizzare anche questa storia che vengono tutte importate dalla Bulgaria, dall'Ungheria e schiavizzate. Ci sono anche quelle, ma certo, vabbè, ci certo. Sono, ma non è, la prostituzione c'era anche prima di che si verificassero certi fenomeni in Europa, ci sono sempre state, per cui vuol dire che il movente principale è quello del denaro e il denaro che si guadagna con la prostituzione indubbiamente è maggiore e si ma secondo te, con ma... minori difficoltà rispetto che andare in uno stabilimento, andare a fare la cameriera. Ma secondo te salvano i matrimoni molte prostitute? Se ne ho sposate alcune? No, ne ho sposate, no, per carità. Se salvano i matrimoni, cioè se in alcuni casi possono salvare i matrimoni le prostitute, cioè, guarda, i matrimoni si salvano se c'è un interesse comune fra i coniugi, interesse, al di là degli innamoramenti, di queste cose, altrimenti si sfascia, e in effetti si sfasciano quasi tutti. Poi che siano le prostitute a salvare i matrimoni, questa mi giunge nuova, però sono molto curiosito, interessato alle motivazioni. In alcuni casi, in alcuni casi, sai, c'è una mancanza di sesso all'interno del matrimonio e la prostituta, come dire, sopperisce a questa mancanza di sesso. Beh, la signora che fa? Con i toy boy? Beh, la signora magari è in una situazione, come dire, no? Con l'idraulico. No, di superamento di questa, diciamo. Ma del non è vero, ma le donne sono come gli uomini, hanno le stesse esigenze che abbiamo noi, no? Sì, però magari col passare del tempo, degli anni, ci sono persone che si. Vabbè, quello anche per gli uomini, col passare del tempo ci provvede la prostata a sistemare tutti gli ardori. Beh, tu però non mi sembri in questa situazione, eh? Ma io personalmente, nonostante la tua voglia di confidarmi. Però qualche guaio con la prostata ce l'ho avuto anch'io. No, certo. Allora, Pupo, caro Parenzo, ha detto a Panorama, in questa intervista pazzesca a Panorama, sì, ha detto, cosa mi piace di più? Mi piace di più il cunnilingus, possibilmente con donne non depilate. È la mia passione, possibilmente con donne non depilate. Così come il rapporto anale, vabbè, d'accordo. E beh, poi c'è dovrebbe interessare Pupo, Ghinazzi, Enzo Pupo. Ghinazzi, detto Pupo, sì. Poi gli piace prendere un binocolo per spiare nelle case, nelle camere d'albergo, un vibratore e una lucina per esplorare la donna proprio lì, accuratamente. Ma secondo te queste notizie che tu stai leggendo di è un'intervista Pupo a Panorama, ragazzi, poi non è che le facciamo solo noi, è un'intervista a Panorama, cioè ha fatto un'intervista a Panorama. Secondo te interessano al commercialista della Confindustria? Assolutamente sì, assolutamente sì, questo può essere certo. Secondo me Pupo aveva una chiara indole per fare il ginecologo tutto lì, non vedo altro. Sì, effettivamente la lucina per esplorare la donna, questa a me non mi è mai venuta in mente, cioè. Mi fa anche un po' ridere. Sì, l'esplorazione. Le parti così anatomiche e prese nei dettagli sono anche abbastanza ributtanti. Sì, no? È vero, sì, le parti anatomiche, se uno le prende così, se le isola dal contesto. Sì, come so il colon. Sì, fanno anche un po' schifo, sono delle protuberanze orrende, diciamo la verità, sono delle orrende protuberanze. Sì, diciamo, infatti. Qualsiasi esse siano. Poi dice che lo fa impazzire la Bignardi. Cioè dice una volta mi invitò, ma fui costretto a rifiutare perché sarei stato sopraffatto dal desiderio. Bah, Madonna, no. io conosco bene la Bignardi. Cioè io non sono mai impazzito, qualche volta mi sono incazzato e la rima è involontaria. Cioè tu dici è difficile avere una, come dire, un'eccitazione pazzesca per la Bignardi, è molto complicato. Parlo per me, naturalmente. No, ma certo. Però non posso escludere, perché tu sai che queste cose sono molto soggettive. Sì, no, perché certo. Per esempio, sai cosa succede? Che tu hai a un certo punto una collega con la gobba. Sì. E ovviamente non è che ti attragga in modo particolare. No, no, no. Dopo 3-4 mesi di convivenza, di aperitivi, di caffè, di lavoro, sì, in sostanza sì, di una convivenza sia pure lavorativa, a un certo punto può anche succedere che tu dica a te stesso e anche a lei, però questa gobba non è mica male. Cioè riesci a vedere positiva e bella anche la gobba di qualcuno che vedi continuamente. Così. Ti fai poi piacere? Invecchiando, di solito agli uomini cominciano a piacere anche le brutte. Sì, ma a me anche quando ero giovane mi piacevano le brutte in realtà. Allora, due, tre domande. Perché poi sai, ci sono le leggende, no? Le brutte si impegnano di più, sai, tutti questi discorsi, e quindi uno dice proviamo. Gli uomini si piegano anche a queste meschinità. Allora, abbiamo due cose velocissime da chiedere un po' più serie a Feltri dopo questa augusta conversazione che abbiamo fatto. La prima è questa: Verdini che lascia Berlusconi e dice che vuole fare il partito della nazione con Renzi, eccetera, finisce male o come finisce? No, io penso che se ne va anche Verdini, vuol dire che ormai siamo al naufragio. Ma è uno intelligente o semplicemente un paraculo Verdini, secondo te? Beh, la paraculaggine non contrasta con l'intelligenza, cioè a tutte e due insieme. Secondo me non ha prodotto nulla. Cioè uno dice Verdini è bravo, no? C'è questa cosa che è intelligente. Sì, ma che ha fatto? I risultati, che poi sono quelli che contano, in questo caso sono un casino. Cioè, sono meno di zero, perché cosa ha prodotto? Un casino infernale. Esatto. Senti, nessuno te l'abbiamo già chiesto, eccetera. Secondo te qual è il profilo ideale per il sindaco di Milano? Perché tu non lo vuoi fare, Del Debbio non lo vuole fare, Salvini nemmeno. Cioè, il profilo ideale qual è? Cioè, chi è che dovrebbe fare il sindaco, secondo te? Uno che riesca a mungere qualche soldo allo Stato, il quale naturalmente ne è privo, e quindi mi sembra che la figura, un mestiere miserabile, che mi sembra che non sia inesistente. Cioè, forse Berlusca potrebbe chiudere la sua carriera, ma non così. Lo può fare, però non lo può sì, fare, ma bisogna anche leggerlo poi. Sì, ma poi non lo può fare, non lo può perché fare. Non lo può fare Berlusca? No, non lo può fare perché per la legge Severino, ma certo non lo può fare, certo. La legge Severino, scusa, come sappiamo, vale solo per Berlusconi, non certo per Berlusca. No, appunto, stavo certo per dire se il signor De Luca fa il governatore della Campania, ma non lo può fare perché la legge Severino prevede un'ineleggibilità. Ma tanto uno fa un ricorsino al TAR, chi se ma ne no frega. Ma perché c'è un casino, non sei nemmeno candidabile, credo. Non si può fare neanche ricorso al TAR. È vero che ti ha chiamato Crocetta? Sì, mi ha chiamato Crocetta. Beh, che conversazione. Mi ha ringraziato per le cose che ho scritto. Sì. Poi, vabbè, mi sembra anche normale che lo abbia fatto. Io immagino la conversazione tra Crocetta no, Crocetta ha parlato solo lui, perché Crocetta è come Berlusconi, non fa neanche pause, parla solo lui. Ciao Vittorio, a presto, ciao. Allora, Fulvio da Livorno, vai, 800-24-00-24, vai, abbiamo tanta roba ancora. Tanta roba. Roberto Macerata, vai. Roberto. Alessandro, provincia di Lucca, dai. Ragazzi, oh, e dai, forza, Alessandro dalla provincia di Lucca. Mario da Benevento. Pronto. Vai, dimmi. Scusate, buonasera. Vai, dimmi. Dire due semplici cose. Allora, una, il caso di Pompei è l'ennesima vergogna italiana, una delle tante vergogne italiane che sappiamo. Pronto? Sì, ho capito. Allora? Ecco, e poi volevo dire un'altra cosa, quella persona che ha chiamato prima, il camionista, è la vergogna dei camionisti, quella persona là, ha capito? Perché la vergogna dei camionisti? Non ho capito. Perché a dire certe cose in una radio pubblica così, soprattutto non ha, ma la prima cosa da sa qual è, che non ha rispetto di sua moglie. Ma che te ne frega te? Ma che te ne gli mette le corna? Ma che te ne frega? Scusa, ma che te ne frega te? Non ho capito. Che te ne frega te se ha messo in mezzo sua moglie? No, ma io sai perché ho chiamato Cruciani più che altro? Perché? Non perché ho capito. Sono diverse sere che io sento dire in questa radio. Sento sputtanare i camionisti. Ma quale sputtanare, se abbiamo grandi ascoltatori? Ma generalizzi? Ma senti, per quale Mario, motivo generalizzi? Mario, non hai capito, perché, non hai capito nulla. Puttane, non hai capito. A parte che secondo me non è vero che tutti i camionisti vanno a puttane. Io non ho mai. Allora perché generalizzare in ma questa chi l'ha detto? Camionisti. Ma chi lo dice? Sempre così. Ma chi lo dice? Stai calmo. No, ha ragione. Io sento sempre questo. In radio sento sempre questo. Ma ho capito. I ma se no. I camionisti vanno a puttane. I camionisti vanno a travestiti. Ma non ho capito. Ma qual è il problema se i camionisti vanno a puttane? Ti dispiace? Non ho capito. No, non dovete generalizzare. Ma questo mi dà fastidio a me. Che generalizzate? Hai capito? Stare sputtanando la categoria dei camionisti. Ma anzi, io non direi camionisti, degli autisti di camion. Perché sta parola camionisti, sinceramente, mi fa proprio. Io sono un autista di camion, non sono un camionista. Vabbè, adesso ti metti pure a distinguere tra camionista e un autista di camion. Io sono un autista di camion. Vabbè, autista di camion, chiama come ti pare, vai, ciao. Voi che andate a prostitute, vergognatevi, miserabili. La Zanzara. Seconda parte del bellissimo film Pierluigi Diabolik e le 40 mignotte. Tipi da Zanzara. Ah, Diabolik si fa pagare 250 euro al mese e più una trombata quando dice lui. Beh, siamo a parte veramente. Che sarà ultimamente che costa più di Viagra che d'affitto, però sì, siamo fanno a turno. Diabolik tromba e incassa 250 euro al mese. Tu con queste prostitute, una di queste 40, una te la sei fatta, dai, su. Ma più di una, che scherzi. Allora ci sei andato con queste qua? Ma guarda, l'ultima volta a Pasqua abbiamo fatto una grigliata lì sotto da Diabolik. Una grigliata? Un mucchio avete fatto, che grigliata? No, una grigliata. Ma è una porcheria. Ma porcheria? Se mangia, se beve, se tromba e ci si diverte. Ma non ho capito, l'hai pagate oppure era una gratis? No, mai pagate. E mai perché? Pagate. Che queste te fanno tromba gratis, le prostitute di Latina, scusa? A me sì, a me lo, che ne so, se siamo amici. Ho anche la fidanzata, insomma, sono separato dalla moglie. No, sei fidanzato, ma ogni la tanto. La fidanzata lo sa, sì, che vai. Sì, sì. Sì, certo, come no, non è... cioè, che bell'ambiente, non fai è minimamente gelosa, anzi. Anzi, volte, anzi, delle volte, perché non vai stasera? Anche lei. Cioè, ma la fidanzata è consapevole che ogni tanto ti fai queste prostitute qua, ma da, sì, da diabolica, certo, casa di diabolica? È consapevole di tutto, delle amanti, delle gnotte, che queste ragazze che ogni tanto qualche ammucchiata ci si fa, insomma. No, cioè, pure l'ammucchiate, pure l'ammucchiate. Questo non credo. Se ne stanno 40, fai una grigliata, io diabolica, Totonno, e almeno una decina di queste, ci uscirà qualcosa o no? Beh, direi di sì. Se tu fai, se tu fai la grigliata con Gianni Morandi, Vasco Rossi e qualche cantante, se canterà, no? Queste sono mignotte, se tromberà, mica sarà tanto differente. Beh. Tipi da Zanzara. Vabbè, allora dai ragazzi. Gnappi. Donatella da Roma, 800240024, vai. Pronto? Vai Donatella, dimmi. Sì, Cruciani, no, volevo pregarvi di non andarvene via, né te né parente, cioè né lei né Parenzo, perché vi adoriamo, sia io che mia figlia. Sì, però sua figlia quanti anni ha? Anzi, tua figlia quanti anni ha? 30. 30 anni, ottimo. Però, no, ottimo semplicemente perché ascolta la Zanzara. Beh, per carità. No, però voglio dire, se uno se ne va, poi o va da un'altra parte oppure... E vabbè, voi avete il mio numero, avvisateci dove andrete, perché se andate da un'altra parte come vi troviamo? Io non voglio perdere neanche una puntata, perché vi adoro. Capito, Parenzo? Senta, mi fa sentire una risata dell'ammirante che era così divertente, l'ho sentita un paio d'anni fa. Aspetta. Parenzo, che stai facendo? Parenzo? Guarda, ma che stai facendo? No, stavo, te lo dico in diretta, stavo cercando di contattare Simona Ventura, che è appena arrivata qui. Sì, vabbè, ma chi se ne frega di Simona Ventura? E voleva farti un saluto. Ah, però... sì, come no, certo. Ecco. Sì, quindi... ma per pregare di come stavi contattando. No, perché siccome qua giù è giù per prendere aperitivo, io sono in camera a fare la radio. Allora, portala in camera, fai. No, porto in camera la Ventura, perché è una signora. Ottimo. Ma che sei matto. Ma no, ma in camera mica. Allora, te lo dico alla radio, ti dico, siccome lei è disponibile a fare due chiacchiere con noi sui grandi temi dell'attualità, sulle grandi questioni, dalle questioni sindacali alle questioni dei rinnovi dei contratti della Confindustria, insomma, sì, era interessata a entrare nello spirito di questa trasmissione, Barisoni, le borse, il Nikkei, eccetera. Sì, sì. Allora stavo contattando adesso, allora, siccome io sono in camera, ecco, la faccio venire su? Beh, no. Ma la sì, falla venire su, dai. La chiamiamo al cellulare. Vabbè, allora dai, ti do il numero 33. Sì. No, scrivere? Che fai? Siamo in diretta. Ah, sei no, pazzo. Scusami. Vabbè, Carmen da Matera, dai, Carmen, dimmi. La chiamiamo al cielo. Carmen da Matera. Anzi sì, guarda, va giù mia moglie. Oddio, che palle. Facciamo dai. Così. Ho capito, adesso no, fai quello che devi fare. A lei che ho capito, ma fammi parlare con Carmen, vai. Parla con questa qua. Dai. Viene giù mia moglie col cellulare, va viene. Va bene, togliete un attimo l'audio. Carmen da Matera, vai. Carmen, c'è o non c'è, ragazzi? Ma che cazzo fate là dietro? Su, dai. Amalia da Torino, dai. Forza. Salve, buonasera, sì, sono io, Cruciani, Amalia. Vai, Amalia. Senta, io intanto volevo fare una premessa, che io sono d'accordo con lei su tutto per quanto riguarda gli altri argomenti. Siamo gli altri argomenti che non riguardano il sesso, come stasera, le donne, perché lei quello che pensa lo dice e lo apprezzo molto, perché non gliene frega niente di quello che pensano gli altri ed è una persona molto molto intelligente. Ma chi? Però per quanto riguarda il fatto della prostituzione, lei scende molto in basso. Le donne non siamo degli oggetti sessuali. E mi dispiace che esistono questi uomini che ancora pensano questo. Signora, si arrenda, no, la prostituzione brava, c'è e ci sarà sempre, chiaro? E c'è lo sfruttamento. Lo sfruttamento c'è la polizia a indagare, i magistrati, quando c'è sfruttamento. E ci sono i maschi che si devono fare un nodo al pisellino. Ma allora, che nodo al pisellino? Ma vai al coso, vai. Vai. Messaggio per Riccardo Poli. Vai dall'ISIS. Chiama il mio cellulare, al quale risponderà Simona Ventura, e io rimango a questo. Vai dall'ISIS, non c'è. Dove c'è l'ISIS? Dove c'è l'ISIS? Non c'è la prostituzione. Se vi piace l'ISIS, va benissimo. Ma perché non fanno le case chiuse come in Olanda? Perché non fanno le quello va benissimo. Ma quello, per esempio, che là tutto quanto è organizzato. Ma che problema le danno le prostitute? Scusi, che problema le danno? Allora, una donna è libera, diventa il proprio corpo, però non sfruttata da un altro uomo. È un uomo che va con una donna sapendo che è sfruttata da altre persone e che è schiavizzata, e fa ancora più schiavizzata. schifo del poppone, capisce? Ma... Mi va con queste ragazze sputtate, fanno ancora più schifo dei magnacci che stanno scusi dietro. Un attimo, io non capisco. Ed come è una cosa orrenda. Va bene, se uno va bene, amica mia, allora se uno se uno va a prostitute e chiede prima alla prostituta scusi, lei è sfruttata oppure ma no? Ma non ci deve andare con queste sfruttate. Ma basta. Ma guarda che siete curiosi voi. Guarda che siete. Adesso Parenzo è passato. Il cliente non gliene frega niente. Cioè, signora, signora, ho capito tanto quello che vuole dire lei. Parenzo è passato dal dire una puttanata, si è reso conto di aver detto una puttanata. Cioè che sono miserabili i clienti delle prostitute. Beh, certo. A specificare ma, ragione, sono dei miei, ma non sono miserabili, sono no. senza cuore questi uomini. Sì, senza cuore. Cuore è passato a dire adesso sì però sì cuore. Vabbè ho capito signora ma ho non... capito ho capito è passato a dire sì però se sono sfruttati come se fosse facile uno va a una prostituta ma scusi ho sempre sostenuto ma che dai Davide ma sei veramente patetico e ridicolo sei patetico e anche un po' ridicolo. Se una lei è escort è evidente che non sono va bene allora lei sì, e forse quelle sfruttate. Uno come fa a saperlo? Me lo spieghi? Me lo spieghi? Guarda, allora, se io ti faccio un telefono. No, non è molto semplice. Io faccio un telefono. Io prendo un telefono e affitto, diciamo così, una donna per 1.000 euro a sera. Come faccio a sapere che questa qua non è dentro un giro di racket? Al fondo della storia uno rimane sempre un miserabile. Dai, ecco, allora l'hai detta. Sono miserabili tutti. Sono miserabili tutti. Dai. Va benissimo, benissimo. Al fondo della storia è un po' un miserabile, dai. Quello... Ti faccio sentire la voce di una ragazza. Voglio dirti questo, se chiamate il mio cellulare. Sì, ho capito, abbiamo capito risponde bene. Risponde Simona Ventura. Benissimo, allora Messaggio per Riccardo Poli. Benissimo, allora sentirete per fra Laura poco Marchesi e anche per Bucciero con sì, la sentirete tra poco la voce di una persona realizzata da chi ve lo dico dopo, di una persona che sceglie invece di fare la prostituta perché guadagna un sacco di soldi. E vabbè, ma quello va bene, quello è volontario, va bene. Lei è una delle escort più richieste di Roma e ci ha aperto le porte della sua camera da letto. Ci sono giorni che ho guadagnato 4.000 euro, giorni che va male guadagno 1.000, diciamo che la media è intorno ai 40.000 euro al mese, 40, 60, dipende. Sei felice di fare questo lavoro? Sì, mi piace, sinceramente non so se riuscirò a smettere. Penso no, quando avrò un figlio, famiglia, basta, però secondo me qualcosa di nascosto la farò sempre, perché mi piace proprio il brivido un po' della trasgressione, del proibito, dell'incontro. It's too bad, but that's me. Il ragazzo lo sa? Sì, diciamo non glielo ho detto subito, glielo ho detto un po' per volta. Insomma questa è una cosa che io faccio un po' per divertimento, un po' per soldi, perché penso che non esista un altro lavoro dove si guadagni così. Cioè penso che neanche il Presidente della Repubblica a momenti guadagna come me. Io non mi vergogno di niente, cioè, mi vergognerei se fossi una ragazzetta facile che insomma va in giro, salta da un abbraccio all'altro. Io queste cose non l'ho mai fatto, sono sempre stata una che tra virgolette se la tirava, non faccio niente di male, anzi ho la mia dignità, sono molto pulita, molto elegante, quindi non mi vergogno di nulla. Schegge impazzite, Andrea e Roberto che hanno intervistato questa super escort per noi, Ma non c'è dubbio, perché il culo di una donna va bene e il culo di un fracio no. Scusa, è tanto evidente. La Zanzara. Buonasera, allora, siete due facce di merda, ovviamente. Allora ragazzi, ultima puntata della Zanzara di questa sera, forse ultima puntata mondiale della Zanzara su questa radio. Si trova a Ponza insieme a Parenzo, però non accoppiato a Parenzo, sarà sicuramente col suo fidanzato. Nel senso che mia moglie le ha portato il mio cellulare. Non è tua moglie, perché devi dire che è tua moglie innanzitutto quando non è tua moglie? Cerca di avere rispetto per il ruolo. Franco di Bacchettoni, voi. No, io sono nella mia stanza in déshabillé, quindi ho ritenuto inopportuno per la signora farla venire qui. Ma no, non sarebbe salita comunque in camera tua. Appunto, devi sapere che io con Simone Ventura ho fatto l'esame di giornalismo. Lei non se lo ricorda perché io all'epoca ero un coglione, cioè, lo sono anche adesso, per carità. Perché all'epoca? No, lo sono anche adesso, però perché nel senso. Perché limitarsi all'epoca? No, lo sono anche adesso, però non ero noto, mentre lei cominciava a essere un po' nota. E mi ricordo in quell'hotel Ergife a Roma. Ciao Simone, innanzitutto. Ciao, cara. Buonasera a tutti. Intanto è un falso problema, non sarei mai salita da Parenzo. Esatto, esatto. Diciamola tutta. Quindi inutile fare una tempesta in un bicchiere d'acqua. No, non c'è nessuna tempesta. Infatti io ho detto, vai, perché non la fai venire in camera? Lui ha detto, no, per carità, sai come sono io sempre. No, ho detto, non sono così maleducato, non mi permetterei mai. Sono maleducato. Ma poi ha una splendida moglie che mi ha portato il cellulare, quindi. Ma non è la moglie, uno deve essere anche chiaro che le cose. Non è la moglie, è la compagna. Tu sei. È la compagna. Non sei ancora nemmeno divorziato, Parenzo. Cioè, diciamo la verità, diciamola tutta. Ti ringrazio che tu ricordi ai nostri ascoltatori il mio stato di famiglia. Beh, diciamo, chiarezza, ma trasparenza, anche Simone Ventura nel passato di cotte di crude ha sempre detto. Non lasciamo perdere su questo, sorvoliamo, ecco, sorvoliamo il discorso del divorzio. Vabbè, anche tu sei passata per un divorzio, mi sembra, non c'è niente di strano. Sono passata, no, niente di strano. E succede nella vita. Il marito, però poi alla fine è sempre il compagno di vita. Cioè, alla fine, se uno nella vita non fa figli, non fa un mutuo, non si separa e non si divorzia, non è vita, diciamola tutta. Cioè, la vita è molto più divertente. Bisogna completare questo cerchio. Allora, per ricordare, Simone Ventura, io mi ricordo, ho avuto un flash, no? Roma, esame di giornalismo, dove forse sei stata bocciata adesso. No, sono stata bocciata all'orale più che allo scritto. Ma veramente? Sì, assolutamente. Adesso non mi ricordo, però non mi sembra che sia. Io lo sai che sono passati 20 anni. Sono passati 20, cioè non hai mai passato quell'esame tu, non ho capito. No, non l'ho passato e poi non l'ho neanche più rifatto. Ma che te frega, ma tu sai che anche Einstein fu bocciato all'esame di matematica, ad esempio. Ma questa è una cosa che ti sei inventata. No, guarda, Davide, un bicchiere, un mojito in tuo onore. Ma è verissimo. Einstein fu bocciato a un esame, in particolare l'esame di matematica. Certo. Allora, io voglio capire una cosa. Simona farà Miss Italia il 20 di settembre, ci saranno anche moltissime transessuali tra le partecipanti, sicuramente. Ma io non lo so questo, però scherzo, non ci sarebbe niente di male. No, per carità. Figura, a me lo dici, io sono una persona assolutamente aperta a qualsiasi cosa. Intanto c'è Vladimir Lussuria come giurata. Quella è stata una grande scelta. Sai, io vorrei avere una storia con Vladimir, solo che non ci riesco. Ma mi sa che non c'è verso. Non c'è verso. Occhi e croce. No. Puoi intercedere per me? Puoi intercedere per me? Ma io intercedo, ma mi sa che è un puro di gomma, ecco. Dici che lei è il problema? Dici che lei No, non è lei il problema, sei tu il problema, nel senso che è abituato ad avere dei begli uomini. No, adesso mi stai offendendo. Scusa, abbi pazienza. Adesso questo... Sto scherzando, Giuseppe, sei un bell'uomo anche tu, dai. Non come il tuo fidanzato, tanto. Il mio fidanzato è bellissimo, bello dentro e fuori. L'ho visto recentemente ad una festa, è bello, è un po', diciamo, come dire, bello, per carità, è bello, però mi sembra un po' esternamente, per carità, un po' scontato, ecco, non è selvaggio, insomma, non è savage. Questo non è detto, dipende dai momenti, ecco, it depends. Allora, io voglio capire una cosa, molti dicono, l'avventura non fa più niente in televisione, io non lo so, non mi interessa questa cosa qua, ma io non faccio più niente nella generalista, ma perché questo? Grazie a Dio posso aspettare, perché scelgo dei progetti nuovi, scelgo dei progetti innovativi e quindi mi diverte di più. Ma cosa vorresti fare, per esempio? C'è una cosa che non hai fatto e vorresti fare? Diamo un senso. Dimmela tu una cosa che non ho fatto e vorrei fare. Quello è vero, hai fatto un sacco di cose. Fatto un sacco di cose. Ma una cosa che vorresti fare? No, una cosa che ho fatto. certo, è, secondo me è una cosa molto bella, il contadino cerca moglie, quindi è un dating, quindi ah, è bellissimo quello. No, è bello perché conosco delle, conosco le campagne italiane, sono fantastiche, è una cosa che non ma una fatto. Cosa che vorresti fare, uno dice pensa una cosa che ancora vorresti fare in televisione o che... è una cosa che vorrei fare in televisione è possibilmente portare lì la nostra più bella italianità all'estero, questo sicuramente. Che cosa? In che modo? Ma in che modo? Attraverso dei canali, attraverso delle piattaforme, insomma, stiamo lavorando anche per questo. Ma è l'italianità, non andare a lavorare in inglese, tanto non c'è nessuna possibilità per noi, no? Perché comunque... Insomma, ancora non è finita, Simona Ventura non è finita. Ma mai, mai. Non è finita. Mai cioè, non hai appeso la conduzione al chiodo, insomma. Ma assolutamente no. Ancora ma, vuoi dare battaglia. Sempre. È una cosa che non faresti, una cazzata che hai fatto. Dimmi una cazzata che hai fatto almeno, l'avrei fatta di cazzate, no? Venire alla zanzara. Quello però non si fa fregare lei. No, devo dire che insomma sono abbastanza accorta. Cioè, se ti chiedo se sei monogama o no, dimmi la verità. Sei monogama? Sono monogama, assolutamente. Sei monogama. Sì, sì. Però avrai tradito pure te qualche volta in vita tua, no? Ma no, in vita mia sì, magari in passato sì, ma è sempre stato quando è finito un rapporto, non sono mai riuscita dice, a mantenere. Si dice sempre così. Si dice sempre così, vabbè, però è per me è così. Per te è però così. Ti devo dire che portare l'italianità sarebbe una bella cosa per me, insomma, un po'. Non so cosa significa. Cioè, vuoi fare l'ambasciatrice? Chiedi a Renzi, voglio fare l'ambasciatrice della TV italiana del mondo. Renzi ha anche altri problemi. Adesso chiederò senz'altro, però intanto lavorando per Fox, lavorando per Sky in questi anni, insomma, comunque parliamo di una media compact internazionale. Anche, bah, certo. Vabbè, Simo, ti abbraccio, a presto. Ciao. Ah, no, ciao. Non ti ho dato soddisfazione. No, è che devo fare altre cose. Se vuoi parliamo di sesso, però non so se vuoi parlare di sesso. Ma non voglio parlare di sesso, non mi chiedi più nient'altro, avevo un sacco di che vuoi, che mi devi dire? Questa Italia. Ma che Italia? Le tasse al 20%. Le tasse al 20%, sei salviniana, ti piace Salvini? Non mi dire che ti piace Salvini. Non mi dire che ti piace Salvini. Mi piace Salvini? No, ma non lo come uomo, no, assolutamente. No, come uomo no. Le tasse al 20%, questo è giusto però. No, le tasse al 20% siamo tutti d'accordo. Ma Salvini come politico ti piace? No, della politica non mi piace niente. Cioè, niente, sai che sono una persona più lontana della politica, non farei mai il politico. Beh, perché durerei meno, come ricordo una mia frase, meno di un dato in tangenziale, capito? Ma non lo so, secondo me invece potresti. Lo dico io. Prima o poi potresti, tanto ormai che devi fare, hai fatto tutto. Però in televisione. Una cosa vorrei farla. Che cosa? Tornare a fare Radio Belva con voi, quello di conduttrice. Quello mi sembra difficile, Un abbraccio. No, invece ti riporterei, se avessi la se potessi farlo vi riporterei in televisione. Beh, lui Parenzo fra poco andrà alla 7, io sono così. Beh, vabbè. Però io sono ormai e tu? Ma io sono di radio, sono affidato alla radio, ormai sono la radio è il mio mezzo, dai. Anche tu non lavori in televisione, allora cosa vorresti fare in televisione? Vabbè, adesso che vuoi fare con me le cose? Radio Belva 2 di notte, questo vorrei fare. Radio Belva 2 di notte. Di notte è un'ottima idea. È un'ottima idea. E ma se molto tu riesci di a portare da mezzanotte in poi. Sì, ragazzi. Da mezzanotte in poi. Certo, da mezzanotte in poi in una fascia protetta, così le... può liberare il suo sesso nell'essere. Ma no, ma non c'è solo il sesso, dai, adesso stai esagerando. No, ma la parte del sesso si può dire un po' senza vincoli, no? Si può dire esatto, quello che esatto. Si vuole. Senza vincoli, non è manco un titolo sbagliato. Ciao Simona, allora, a presto. Ciao, allora, un abbraccio. Se volete io vengo. Ecco, la Radio Belva. Produci tu. Produco io. Produco io, va ciao, bene. Ciao Simona. Ciao. Allora, Giulio da Roma, vai Giulio. Ciao, buonasera. Vai Giulio. Allora, io sono uno dei miserabili, secondo... vai Parenzo. Il tuo amico Parenzo. Voi che andate a prendere, no, vergognatevi, miserabili. Anche secondo Liguori, giustamente. Allora? Sì. Dicevo però, no, volevo fare un discorso un attimo serio, anche se a quest'ora di venerdì mi riesce male, ma ci proviamo. Io vengo da un matrimonio naufragato perché, ahimè, ho avuto un trauma psicologico che mi ha un po' inibito la vita sessuale, però me l'ha limitata. premesso che c'era un grosso sentimento con la mia ex moglie, per carità, cioè, però sai, alla lunga, ahimè, devi far sventolare la bandiera bianca e arrivederci. Oh, dopo varie vicissitudini, perché a me non è che sto poi brutto, quindi, come dire, sono anche una persona piacevole, con una certa cultura, eccetera, e quindi mi è capitato, sai, donne che te le porti a letto e poi alla fine finisce pat pat, stai tranquillo, non è successo niente, però comunque non le rivedi più e stai bene. Bene, allora io ho scoperto, pronto? Ci sono sì, ancora? Ti sto ascoltando, vai veloce. Dicevo, ho cominciato a frequentare una prostituta, poi due, poi tre, con le quali è nato un certo tipo di rapporto, quindi non è che mi fermo sulla salaria o dove sia. Ma certo, ma questa sono... Aspetta, no, perché siccome ha detto che siamo comunque tutti dei miserabili, allora questo mi dà la possibilità, siccome loro non sospettano niente, mandiamo a cena insieme, la sera finisce a... Sì, ma anche se non fosse così, anche se non fosse così, anche se il rapporto si limitasse alla scopata e basta, e con i soldi, ma chi se ne frega, è un rapporto, come dire, basato sul do ut des, do ut des, il mercato. Sai qual è il bello, Giuseppe, sai qual è il bello? Che sto anche recuperando una certa fiducia in me stesso, il che magari da qui a breve posso pure ricominciare una relazione con una donna. Miserabile, ma come dire, però alla fine, ma viva la miserabilità a un certo punto, se così. No, ma io adesso non voglio entrare nel caso, nel drammatico caso umano che questo gentile ascoltatore ha espresso. Io capisco anche il ruolo sociale che possono avere le persone. Mi limitavo e mi limito a dire. Che ci sono alcune, la maggior parte, quelle che sono in strada, direi quasi tutte quelle da strada. È vero che alcune hanno anche il telefonino, anche quelle chiamano. C'è uno sfruttamento in mano al racket che è vergognoso e questo è miserabile all'elementare quello sfruttamento. Scusami, questo continua. Scusami, Parenzo, sei una persona intelligente. Ma io per questo dico, continua per lo sfruttamento, dire, ma sì, ma per lo sfruttamento io sto ormai a 53 anni. Io penso anni, che anche per... tu aspetta, ti vergognerei. Scusami, no, anche aspetta. Tu. Se sapessi che quella ragazza anni. Con cui fai i tuoi comodi, scusami, se sapessi che quella ragazza con cui passi un'ora fai i tuoi comodi. Innanzitutto sono tutte over 40, quindi non sto. Va bene, ma non è quello, non è l'età. Davide, siccome uno non può distinguere, il discorso è inesistente, poi devi essere coerente ed andare fino in fondo. No, secondo te Alessandro è un miserabile, punto e basta. Dai, forza. Alessandro, pagando una mignotta, lo consideri no, un miserabile. Scusa, mi chiamo Giulio. Vabbè, Giulio, quello è scusa, c'è un altro Alessandro qua. Quello come dice Parenzo, quello lì. Secondo Parenzo è un miserabile semplicemente perché paga. A te non ti piace l'idea di pagare una perché pensi che sia uno sfruttamento nei confronti della donna. Dai, a Parenzo non gli piace manco le campiere, dai Giuseppe. Lo so. Dei problemi il ragazzo. Anche secondo me. Hai mai leccato un piede, Parenzo? Non l'ho capito. Diciamo che... Sì, ma leccato un piede, dai, chiunque. Era una battutaccia, su, via. No, ma va benissimo, adesso quello che lecco io sono fatti miei, ma voglio dire, al di là di... Ma perché sono fatti tuoi? Sono fatti di tutti. No, ma dico, al di là di questo, ribadisco il concetto, il signore ha raccontato una storia drammatica, benissimo, grazie, le prostitute ritrova fiducia in se stesse, e siamo felici per lui, grazie per l'avvento alla Zanzara, lo dirà Barisoni lunedì nella sua speciale dedicato a questo, lo dirà Carruba vabbè, nella sua trasmissione, lo dirà Minoli anche, Minoli parlerà anche di questo. Beh, non c'ho problemi a parlarne, assolutamente, ecco, al di là di tutto questo, rimane il punto. Miserabile chi paga una prostituta che è sfruttata. Vabbè. Su questo dice Giulio, non è che glielo va a chiedere, no, su, dai, certo, basta. Che ne so io. Poi magari tutte e tre queste qua devono rendere conto a qualcuno, però voglio dire, non è... bisogna andare un attimo oltre e aprire un pochettino la visuale, dai. Ciao Giulio, ciao. Grazie a voi. Tipi da Zanzara. Abbiamo ritrovato lui, era il 20 gennaio, Talbi da Venezia, Talbi, almeno così si presentò. Dalla provincia di Venezia ci chiama un signore che leggo qui, Talbi, che nome è Talbi? Chi è? Talbi, non è Talbi, sono Italo Tunisino, oh porco maiale, ce l'ho con te oggi, ce l'ho con te proprio, Diego, disgraziato, Diego, tanto ciao. E ieri mi hai fatto perdere 10 minuti della mia vita, divertimento con te, Parenzi, parlavi con quel maledetto di Catania, ma chi cazzo me ne frega a noi? Dillo, tu, dove stai? Cari, subito telefono quel signore là. Noi dobbiamo parlare di figa. Che ne so. Tu devi parlare di gnappi. Non capisco però. Tu sei il re di questa radio qua. Quelli, con quell'imbecille là, non devi parlare troppo. Stacca, parla con le fighe, dico. Oh, grazie a te, ho visto quelle lì, quel mio amico. Io non so usare quelle televisioni. E il mio amico mi ha fatto vedere quella gnappi là. Ma chi? Ma hai visto com'è? Ma chi è questa qua? Chi è? E il mio amico che mi ha visto, guarda qua, io non so usare quel telefono là. Lui mi ha detto, dai, Crociani ha detto questa pornostar. Ma chi? La pornostar libanese, la Mia Khalifa? No, gnappi. Ah, gnappi. Quelle... Mica, grazie Crociani, oh. Se c'è qualcosa in più, Crociani, dai, fammi piacere, passami una, diva. Santo, ma lei è una satanato, scusa, passami una, donna. Ma non è mica uno spaccio di prostituzione questo posto qui, oh amico mio. Parenzo, io e te siamo parenti, eh. Io sono musulmano e lui coso, ebraio, perché sì, lui non mangia maiali e io non mangio maiali. E siamo sì, uguali. Siamo cugini, là. Dopodiché cugini, la sua fame di toppa, diciamo, come sta mostrando. No, trombo, ma non mi basta una moglie, non mi basta una, poco cane. Oh, se non parli di figa, io adesso scendo la RA al baracchino, brecco baramoscia, oh, qui a quella nera, Crociani non parla più di figa, tutti chiudono la radio, attento, eh! Parla di figa, per favore, a noi non frega in casa di niente. Tunisino. Tipi da zanzara. Scusa, io dico una cosa, non hai notato il cambio di passo? Cioè, non hai notato che a un certo punto è come se cambiasse tono di voce? Cioè, quello quando dice parla di figa per favore. Parla di figa per favore, a noi non frega in casa di niente. Ma è diverso da prima, cioè, è diverso. Davide, non hai notato? Sto spiegando che uno è un tunisino, il primo che ha chiamato, quello gnappe. Ma no, è uguale, è la stessa persona. Non è la stessa. È la stessa persona. Ti assicuro di no. Amico mio, ma abbiamo fatto delle indagini, abbiamo recuperato. Io ho fatto fare una perizia a Gelsomino, che è un professor Gelsomino. Sì, quello che faceva le perizie con Taormina. Sì, su Cogne, certo. Ho fatto fare una perizia a Gelsomino. Il dottor Gelsomino, e quello lì parla di quello lì è veneto, mentre quell'altro è un tunisino. Ma no, tunisino. È la stessa persona. D'accordo. David? Ti dispiacerebbe andare a fare in ma culo? Ma non è così, Mugo. Allora, vai. Abbiamo tempo per due telefonate velocissime, no, però. Di tutto, arrivederci. Alessandro, dai. Da Roma, vai Alessandro, dimmi. Chiudici. Buonasera Crociani. Veloce, buonasera, veloce, molto veloce. Velocissimo. Allora, grande lei ha la responsabilità di chiudere la zanzara, quindi. Per tutti i naufragi di questo mondo. Spero che questa trasmissione continui perché è troppo divertente. Il problema è questo. Io ho 68 anni, sono... ho smesso di essere un anziano signore perché sto per diventare un povero vecchio in quanto andrò in pensione. Ho qualche problema di prostata. Io farei una proposta shock. Cioè? Quella signora escort che ha telefonato, molto affidabile, carina, la polacca, gentile, che, no, quella che guadagna 40.000 euro al mese. Sì, quella di prima, sì. Bene, sì. La possiamo convenzionare col Servizio Sanitario Nazionale? Ottimo, grande proposta in chiusura della zanzara, soprattutto per la gente malata di prostata. Fermo, sì, Alessandro, voglio chiudere con Marco da Torino. Purtroppo il tempo è... che dobbiamo fare? Stasera siamo andati un po' lunghi. Marco, vai, veloce. Pronto? Vai. Ciao, io sono Marco e sono un crocio. Sì. Volevo dire la mia in merito ai camionisti che si incazzano, dei gay che li vanno a importunare nelle piazzole. Secondo me c'hanno ragione a incazzarsi, io mi vergogno di essere gay. Perché? Scusa, perché... non ho capito, qual è il problema di andare a rimorchiare nelle piazzole i camionisti? Non ho... Noi... l'approccio che è sbagliato. Ma l'approccio che è sbagliato, bussare di notte certo non è bello, però insomma dai. Io non vado in giro a cercare cazzi per le strade, i miei approcci sono diversi. Ho capito, cerco, ma c'è gente... conoscere una persona, cioè la stessa cosa varrebbe anche per un etero. Un etero si approccia a una donna mostrandogli il pene, cioè non ha senso. Ciao amico, ciao, ciao, ho capito, ciao. No, ma non vai in giro a... abbiamo capito. Ciao Davide, no, a presto. A parte che non mi piacciono anche i camionisti. Ciao ragazzi, ciao. Viva i braci, viva i braci. Ultima puntata, ciao, ciao, ciao a tutti, vi abbraccio, ciao. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Niente, mi feci fa un pompelmo d'era un viato, ma tu sapessi che goduria. Radio 24. La passione si sente.